Si compie quando li compio io. Quanti anni ha adesso già? Veronica, che c'ha bene? Io... compiuto 5 anni a novembre. Infatti non me lo ricordavo. Sì, ancora è piccola, ancora nella scuola, perciò 5 anni ancora. Ancora fa un annetto, così poi va a scuola, magari studia anche musica poi. allora si completa la ragazzina. Bene, bene. Già va bene, sì, Giuseppe, sono cose belle quelle. La musica è una cosa molto importante nella vita. Sempre suonare uno strumento è cultura in più. Avanti, Giuseppe. Come non sto uscendo? Adesso sì. Oggi non va proprio, Ciao bene, schiaccialo bene. Provo a metterci un po' di disossidante, non più tipo, anzi che sia un po' ossidato e non faccia mai contatto per come ti lui, e chi lo sa. E vabbè, le cose elettroniche, queste cose. Possono anche danneggiarsi da un momento all'altro, non è un problema, ma già si risolve tutta la grande sempre. Vai tu! Capo, sono cose che succedono. E questo è successo anche a me più di una volta di non uscire con quel capo di cosa. Però ce l'hanno un pochettino di vicchio quei miei Però bene o male già fanno. Sai cos'è tu, alle volte entra un po' di polvere, un po' di cose, sai, e allora può, diciamo così, eliminare il contatto che serve, ma basta sempre quello, basta un pochino di quel disossidante per la pulizia dei contatti elettrici e tutto va bene, non è così grave la situazione, no, perché la radio arriva molto bene, qua grande, forte, fortissima Giuseppe, dunque chiara soprattutto, insomma la tua evoluzione, ecco, non c'è niente a dire, vai Giuseppe. Oh, ma non è la batteria che mi sta mollando di nuovo, no? Può essere. Può essere, il BTT è. No, perché il BIP c'è, Se togli la batteria non ci sarebbe nemmeno il BIP, credo che sia così, non lo so. Ma guarda, io la batteria, io ce l'ho di quello ricaricabile, ma devo dire, l'ho comprata di Arbico, non mi piace molto. Non mi piace, sai perché? Perché la devo caricare ogni settimana praticamente, perché la controllo con test, da 9 volte scende anche a 4, 5, dipende. Pensate se io non uso abbastanza il baracchino per consumare tutta questa batteria. E se ho fatto di lasciare il volume attivato, ecco che a quel punto mi si consuma la batteria così, con questo, vabbè, comunque, no, va bene lo stesso. Mentre invece metto la batteria di quelle comprate anche lì alla Kovec, quelle Duracell, quelle mi durano anni, mentre questa, ripeto, in una settimana è di quello ricaricabile, non è che l'ho pagata poco, d'accordo, l'ho pagata 4,90 euro, l'avevo pagata, mentre invece quella dalla Duracell è cosa molto, quasi il doppio lì dalla Kovec, perciò, vabbè, ma questa essendo ricaricabile, vabbè, io carico la batteria, me la carico tutte le settimane e via, e ciccia, quando non va, infatti l'ho messa poco fa nel microfono, perché ce l'avevo sotto carica, penso un po'. Vabbè, dai, dopo un altro. Il video in quella radio ce l'ha nella radio, come io ce l'ho nella radio stesso, questo non è il microfono, hai capito? C'è la scheda dentro questo qua, quello invece così è il microfono, è diverso, però il bip ce l'ha la radio, ce l'ha. Sì, ho capito, altro, beh certo, non ho, a volte, ma comunque guarda normalmente, non è un problema. Quando sono andati qua, adesso, siccome avevo vogliato, adesso mi alzo, mi faccio la passeggiatina, me ne vado una mezz'oretta, me ne vado in giro così, e dopo vediamo un po', se sento qualcuno che questa riprendo, cosa vai. Vabbè, intanto vi saluto e vi ringrazio per questo piccolissimo consiglio. Ciao Antonio, ciao Giuseppe, io aspetto il vostro finalino e dopo chiudo e vado a fare la passeggiatina, dopo rientro più tardi. Vabbè, riprendo più Giuseppe. Cose, ci risentiamo più tardi. Avanti Antonio. Giulio Dazio, recendiamo, buon corso, recendiamo più tardi. Ok, ciao, ciao, ciao. Anto. Io tra una decina di minuti riprendo dalla macchina. Adesso, allora vediamo anche come esce un po', dai. Stai andando? Sì, mi devo sistemare altre due cosettine qua e poi stiamo uscendo. Così vediamo un po' com'è la storia. Vada, appena io ti sento ti rispondo subito. Allora stai chiudendo? Kappa, qui chiudo Anto, riprendo dalla macchina. Così ne approfitto e mi compro anche una batteria. Ti do un consiglio. Vai un Yonghi, che io le compro sempre, sono buone. Ci sono le batterie Conat, quelle quadrate, ma non sai quanto sono buone. Ma allora mi fermo lì alla Conat scendendo, dai. E dammi 10 minuti e poi ti faccio chiamata. Alcaline Conat, io le compro sempre, ma mi sono trovato veramente bene, guarda, con quelle batterie lì. Poi vedo se ce la fanno fare da qualcuno, dalla parte, dalla dura, cioè qualche ti fa così. Ok, vai, non c'è nessun problema. Kappa, dai, a dopo Anto, ciao. Ciao. Avanti. Yo me piace. Quando sono stanco che torno al lavoro mi piace sdraiarmi e farmi anche la pinichella. E a me già mi piace anche a me sdraiarmi, no? Bisogna vedere la maciottona subito sdraiata. Allora. Allora, troppo comune, troppo comune. No, a me piace più in altre occasioni, in altre occasioni. Beh, l'ho ascoltato, Rosario. Prova Massimiliano. Guarda vedere se lo ascolti bene, così già. Sì, anche troppo voci. Proviamo a fare, chiudere, aspetta. Allora, chiudo il micchio della radio, così a mezzogiorno, va bene? E adesso va meglio. Aspetta Massimiliano, prova a aprirlo invece. Aprilo il micchio. Sto già nel 48, lui, normale. Quello modificato, spento, riaccendo, normale, senza modifica. Allora, così al massimo, così è all'ora 3 e così è a mezzogiorno. Com'è? Aspetta, cosa stai usando tu, il 48, quello tuo modificato? Positivo, sto usando il mio 48 modificato, senza le modifiche, spento e riacceso, senza bip, senza niente, con un MB più 4 da tavolo. Per me no, no, no, no, non mi piace la radio come se la fa, capito? Non te la, no, non è bella, quella radio è più bella senza modifiche e col microfono tuo che è normale, ma senza modifiche, no, non si abbina bene, rimane un po', diciamo, barattolosa, mi sembra dentro un coso, mi dentro un barattolo, guarda. Oh, rimane maledetto il contrario a me. Comunque, proviamo, aspetta, voglio provare le MB più 5, un attimino. No, no, Massimilia, non è, per me non è questo, non la sento così bella la radio come deve essere, voglio dire, non è, c'è questa tonalità tutta quanta, che non piace a me, hai capito? Vorrebbe leggermente più schiarita la radio, capito? Rimbombante. Guarda l'MB più 5 a vedere se cambia, che qua ci sono da regolare i toni però, Allora, sento più chiara dovrebbe andare meglio. Lui, questo è l'MB più 5, vedi un po' se è meglio, qua ci posso regolare anche i toni, No, va bene, già va meglio di prima, prova a vedere, regola quello che vuoi regolare, a vedere così quello che potrebbe andare meglio, ma già meglio dell'altro, Guarda, così c'ho, allora, il Mickey Gain a 9 e i toni sono a 5, vedi un po'? Poi sì, va a andare bene, va bene così. Prova a fare tutte le altre prove, adesso per verificare come gira nell'altra maniera, dai, prova, vedere. E che prove devo fare? Allora, amplificazione al massimo, i toni li posso mettere a 7, il Mickey Gain della radio è tutto aperto, guarda così. Ma pure bene, prova a vedere invece abbassare appena appena il radio, ma leggermente. Ma il Mickey Gain della radio dice a chiuderlo? No, prova quello del microfono, uno o l'altro, prova a vedere cosa cambia. Allora, così l'ho messo a 7 quello del microfono, com'è? Prima quanto era? Prima era a 9, così a 7. Invece era 8. Così è 8, vedi un po'. Così va meglio. A 7 si fa ancora più chiara la radio, ma se la fa più bassa. Così può andare bene. Vedi un po' aggiungendo più rumore, così per me va bene. Dicono voi, se no chiedo, aspetta, posso fare un'altra prova. Mi chiedo il microfono al massimo. Quello della radio lo sto chiudendo alle ore 2 del pomeriggio e i toni così sono a 7, com'è? Ottima, va bene. Molto chiaro. Così va bene quindi questa modulazione così? Scappa, per me sì, così va meglio. Ma no, ma questa è bellissima. È positivo, va. E poi alla fine del 48 normale. Massimiliano, l'MB più 4 più 5 che sia, te la fa più chiara la radio, l'altra rimaneva leggermente ribombante, anche se è molto forte, però ribombante. Allora già, questo è l'MB più 5, c'ho anche il più 4 io, Allora, il più 4 non tutto perché mi avete detto che era troppo rimbombato, quindi siccome qua si possono regolare i turni ho attaccato questo. Niente, là. Quindi così mi avete detto va bene, lunghezza, 70 cm dal microfono. Così questa radio va bene, io ho abbassato anche il volume qua. Cosa ci? Ho abbassato anche il volume perché dopo era troppo forte. E mi ha detto che questa radio così? E va benissimo adesso, come adesso, è una bomba, va bene. La radio è bella. Chiamo, là, ok. Molto superiore a quella di prima, al microfono di prima. Questa è ultima, è bella la radio, ma l'altro non mi piaceva a me. No, perché io ieri ho fatto delle prove con questo e dice che non è che andava più di tanto bene. Ho fatto la prova con l'altro e dice che non ha bomba. Quindi, adesso mi state dicendo il contrario. Vabbè, comunque là, va bene, ok. Perché non bisogna guardare solo la potenza della radio, ma anche, la modulazione, come. Io te l'ho detto, come potenza era fortissimo quello là, però era leggermente rimbombante. Capito, o Massimiliano? Se noi parliamo di potenza è un conto, ma se noi parliamo essere anche adesso è forte perché è forte, anche adesso, e la chiarezza della radio bella è un conto. Se poi noi usiamo la radio più forte, però non bella, la modulazione non bella era quella là, più forte ma non bella però. Volendo la posso sollevare questa qui adesso, capito? Di potenza, ma a me interessa sia chiara, non forte. L'importante sia comprensibile, pulita, capito? Non mi interessa la potenza a me. Forte e chiara, limpida e chiaro, gran più. Un bombolino va bene, sarò vicino io, però va bene, questa mi piace. Tu lascia tutto così come è regolato quello lì, non toccare nulla. E prova a attaccare l'altro e vedere la differenza. Questo non toccare nulla il microfono, lascia regolato com'è. Allora non tocco niente, stacco solo l'MB più 5 e metto il più 4, vediamo un po' che differenza c'ha là. 4 lì, questo è il più 4, non ho toccato niente, ho solo cambiato il microfono. Oh, è più cupa. Non so come fartela ascoltare a te, non so se questa cosa l'hai fatta ascoltare. A me non piace proprio questa radio, e non è che sia più forte pure che andate in foto, Gianni, non è più forte. Più cupa, molto più cupa, meno chiara dell'altra. Ciao, prova a parlare piano, perché ti fa come vuoi parlare, parlando, prova a parlare più lentamente. E lui, questo dobbiamo parlare, lo volevo parlare lento. Dai, allora praticamente ti dà molti bassi, ti dà questi due bassi e non è chiara manco la modulazione quando tu parli, capito? Rimane cupa. Positivo, dai, ovviamente, va, un riverso l'altro, senza problemi, ok. Sì, adesso bambino. Gigetto, stamattina ho intravisto il tuo nipotino. Prendi da conoscere che forse. Stava scendendo dalla strada di Monterrasuli. Come in macchina era? No, col camion era. Era. Saranno state le 8 meno 10 così. Io sto messo mio nipotino, sai che io stavo pensando al vulcanino. Tu stai parlando di Palmedio. Sì, Palmedio. Era lì da conduttore e ma è macchina col padre, tra l'altro, faccio con le porte da modernità. No, non lo so, ma che ora l'hai visto? Perché lui non ha lavorato oggi. Sì, era col mezzo proprio, col camion grande, con la bottice là. Ma che ora l'hai visto? Perché è passato qua a passarmi le fave, ha portato un po' di fave, ma è passato, e vabbè che era già mezzogiorno e mezzo quando è passato qua, di la verità, dai. 8 e un quarto, saranno fatte 8 e 20. Beh, forse, no, già forse qualche cosa in posto a portare. Entro bombolino. Ma già. Sì, dimmi. Ma esce quel Ruiz, quello mio, con Tango più 3, l'ho attaccato a fare una regolazione, ma non si può fare niente. E boh, non ho capito nulla perché già sulla metà, non ho capito cosa hai detto. Ho capito, Royce, poi. Vabbè, c'ha Claudio. L'ho fatto per regolarmelo, cioè gli strumenti, no, per regolarmene uno. Mi ha chiamato che non si può fare niente. Bene, ce l'hai sentito? No, non l'ho sentito sinceramente. A meno che lui non l'abbia detto, però non penso. Magari l'ha provato stamattina quando non c'è. Oh, ma se mi ha provato, l'ho sentito ieri sera, io ieri notte, stavo andando a Porto Torres a Claudio con quell'apparato lì. Insomma, no, andava bene, non era malvagio, dai, non era malvagio, poteva andare, dai. Posizione, perché io appena gliel'ho portato, l'ho messo, controllato, arrivava al fondo scala a campanetta, una cosa spaventosa, quel cane più 3 micidiale. Io ho sentito un fondo, non facendo delle prove, cose, poi sono entrato e niente, no. Diciamo non era il massimo, ma diciamo che era, insomma, era discreto, dai. Non era il massimo, diciamo proprio il massimo, insomma, però andava bene, era, insomma, poteva andare, dai. Andava, ok. Come fai a dire che non è il massimo, ma meglio di così si può uscire? Claudio, no, io dico la verità, ciao Claudio, dico la verità. Andava bene, ma non è proprio il massimo di radio come piace a me, capito Claudio? Così, capito Claudio? Andava, ma è questo qui. Allora vedi, io l'ho sentito in macchina andando a Porto Torres ieri, vedi qua è stazione, no, è tutta una cosa diversa. Cazzo dici, c'è una radio che spaventosa, cazzo, un bel forte. Positivo, no, adesso io non pensavo che fosse neanche quello. No, io l'ho sentito ieri sera quando stavo andando a Porto Torres. Era tu di macchina, ciao, buonasera a tutti. Tu eri in macchina, capito? Tu eri in macchina e quindi... Evidentemente il problema era quello, ma da casa io quando dico che meglio di così non si può uscire perché mi ascolto, capito? Quindi penso che il giudizio me lo dà solo, ma non è, me lo devono dare gli altri, ma già il mio giudizio dice che va bene, capito? Tutto qua. Claudio, abbassa perché sei un bel forte, abbassa un po'. Non sto per niente, ti ho detto che... Voglio entrare, voglio ascoltare un momento, poi perché non sono entrato per niente. Ciao, basta che sia un bel forte, mi rifaccio di tutto. Ma ci vuole, aumenta ancora di più te, avanza, aumenta ancora di più forza. Ma tutto. Avanza, cazzo, mi rifaccio di tutto io. Cosa va a passare? Questi microfoni non abbassano. Cosa c'è, Antonio Grotte, cosa c'è? Ti faccia tutto, non le fate dormire, non le persone, non le fate dormire. Io non dormo, io c'è sempre un video, quando sento Spalviero, tacchi, mi si addrizzano le orecchie e anche l'uccello e quindi mi devo andare per forza. Ti suona la radio, te qua, qua, bella, non l'ho ascoltata io ancora, cioè l'ho ascoltata io e basta, e suona la radio, te qua. Vabbè, sono 3 watt, 3 watt, questi sono 3 watt, right? 3 watt, adesso ti attacco la bestiolina, mi guarda, 3 watt, e questo qua è con il 231 attaccato. Ecco, prendi questa mano zingara, avanti. Adesso si è sporcata proprio la situazione. No, è la musica che fa il microfono questa, non sono io. Vabbè, allora rimango qui lì, io, va bene. Massimilia, dunque, l'hai sentito, va bene. Passa il pigliatino che non va giù lungo. Ciao a tutti quelli per me. Aspetta, fammelo sentire il 231, che degli altri non mi interessa niente a me. Voglio ascoltare la mia radio. Questo ti ho detto il 231. Guarda, così è col VV131, invece così è senza VV131, cambio, così è con la teleferica. E va bene comunque, di una maniera o dell'altra, ragazzi, prendete insomma, ciao. Ciao, ciao Massilia, 16 passa il 3, però che non c'ho posto. Ciao a tutti i colleghi per me. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao Massimiliano. Ciao Claudio. Ciao, ciao Massimiliano e Claudio. Lei è entrato, chi era Fabio entrato? Eia. Ciao Fabio, ciao Roppe. Non vi è entrato, non so che sono altri. Buonasera a tutti. Buonasera, come mette la radio così in massa? Ma Fabrizio, avanti. Ciao a tutti e scusate l'intromissione, un po' brusca. Poi si capiva che eravate insieme. Ma che qualcosa è andato su qualche canale a fischiare. Lasciali là. La maleducazione, esce a vedere là. Diamelo Claude, lo fa qua. Trotte, come mai non mi sente? Vabbè, dove se io ti sto dicendo a te, come mai non ti sentivo più, non ti ascoltavo più, ma neanche io che sto stando molto. Questo fra l'altro ti ho incrociato, stavo scendendo a Cagliari un paio di giorni fa, ti ho incrociato, non avevo l'apparato in macchina, ho dato dei colpi di clutch, ma adesso non mi ricordo neanche cosa stessi trasportando. E bisogna vedere quanto mi 3-4 giorni fa, forse anche di più. Non ero quasi tutta la settimana, no, ero tutta la settimana a Cagliari, là. Tranne che ieri, ero tutta la settimana, tranne che martedì, che non si poteva viaggiare, non ho viaggiato, poi ero sempre lì a Cagliari. Ero andato a Foggia, non mi viene la figlia, non mi viene la sono andato lì, pura, via, quella di Mario. Parole. Gizzano, ci sei? Break. Avanti. Zingara 2, ci sei? Avanti. K. Ma ascolta, quella cosa ti serve ancora? Ce l'ho qua, quando vuoi. No, voglio mettere qua la 2008, adesso mi organizzo un attimino, mi faccio dare una mano da Claudio e la tiriamo su. Ma l'antenna? Campa di Roggero. No, ma non in via Rockefeller, via degli astronauti. Voglio togliere questa ringo perché tutti i nessi e questi problemi li sta dando per questo motivo, sai? Se prendi sabato. Sento un break. Sento, li riprendi. Grazie, salutoni a tutti quanti. Probabilmente adesso finalmente riesco a farmi sentire bene perché sta accordando bene il tutto. Salutoni a tutti. Ciao Salvatore, mi hai sentito? Salve, vista avanti. Ciao Salvatore, mi hai sentito? Avanti, la mia frusci. Avanti Fabri. Ciao Salvatore, ben sentito anche a te. Per l'ennesimo, cioè il secondo giorno non ti sente e tu ti senti ogni momento. Vai, avanti Salvatore. Tre volte ci sento. Perché tu ultimamente non è che proprio entrano così tanto tra lavoro una cosa e l'altra e niente. Adesso magari qualche cosa in più la faccio, dai. Sì, no, ma io ho 10 giorni che non accendo, quindi mi fa ridere questo. Perché se tanto mi va tanto anche tu sei nelle identiche condizioni. Infatti non è che sto accendendo molto. Ma vabbè, accendo ogni tanto, una chiacchiera che si può fare. Ripeto, poi tra bambino una cosa e l'altra, mi sto venendo sempre più in salita, però poi magari sono qui che sto ascoltando perché sto facendo delle cose, però poi chiacchierare sono le mani occupate e quindi non ci riesco. Thank you. negativo, perché? Sentivo un'altra voce, so. Vabbè. Infatti Fabri è quella l'intenzione. Tu per l'accordatore famoso l'hai preso? No, non l'ho preso l'accordatore, l'ho preso. Sono sempre quello, per il momento non so che non mi serve, tanto che io posso andare a fare per il momento, quindi niente. Non c'è luci, ma va bene, per il momento va bene questo. Oggi ho comprato un veloscoppio, dovrebbe arrivare la prossima settimana, 100 MHz, analogico digitale, della Stealth Point, bello, è stato una camicia Emiliano, l'ho valutato, se lo è piaciuto, adesso se tocco questo al telefono lo devo spedire. Lo riuscì da sola? Oscilloscopio. Buonasera a tutti. io l'ho fatto l'altro giorno, non sono salito. Un paio di dita ho fatto, a occhio sono andato. Quindi quando è pieno lo butti dentro la pasta? E allora, ma io li ho fatti, ho fatto tre buchi, ho fatto un paio di dita dall'ultimo bullone, perché c'erano cose 13 cm, possibile, vabbè. Potrebbe essere 13 centimetri, potrebbe essere, potrebbe, ma ci vediamo, ma io non ho memoria, io lo so, io leggo una cosa adesso, giro la testa e non so se ho dimenticato, vuoi guardarla, quindi magari se posso ricordare questo 13. Grazie della 13, quella sicura, poi per il resto non vuoi. E anche di meno, Mi avevo fatto tre antenne di 13, che... Bruno, che oggi finalmente sta lavorando, Massimiliano, finalmente sta accordando questa cosa, è perfetta adesso. E già, ma io non ne ho stasera. Ma sai che no, adesso che sono con le cuffie, non mi sta dando più quella specie di ritorno che stavamo sentendo stamattina. Adesso tolgo lo squelch, vediamo un po' se lo rifà, ma non mi pare di sentirlo. Neanche a me. Non lo sta facendo neanche a me. Magari era qualche cosa che c'era nell'aria, cosa ne so. Chiamano a Fabrizio, però stava accadendo, così anche gli altri sentono questa cosa strana. Vabbè, ma Fabrizio non ha l'accordatore da fare. Ah, vero, giusto, era legato all'accordatore. Comunque, per fare la prova, Fabri, Gianni e gli altri, succedeva questo, che in determinate condizioni, io l'avevo legato al rosso elevato, perché avevo notato che quando non scendeva sotto i due, praticamente mollavi, come finivi di parlare, mollando la portante, sentivi una sorta di bip, come se fosse stato un Roger Bip, che si innescava subito dopo. Ma un rumore particolare, sembrava il classico bip di un'allerta o di un errore, senti una cosa del genere, alla fine della portante. Sono cose strane. Ce ne sono di queste cose, di rumori strani. L'altro giorno lo stesso sentiva un rumore particolare, pensavo che dipendesse dalla radio, invece era dovuto al rumore che c'era nell'aria, una cosa del genere. E comunque poi, anzi, questo dopo pranzo, che l'ho fatto lavorare un po' in altre frequenze, come sono ritornato qui sui 27.75, mi ha accordato a 1.1, perfetto, non si schiola da lì, proprio 1.1, perfetto, e non sento più nessun beep. Io l'avevo legato al discorso delle stazionarie, chissà, vai e pesca. Andavi, riprendetela che io vado a prepararmi. Similiano, ma quei software li hai provati? Quali? Quelli che ti avevo mandato via mail. Adesso mi prendi contropiede. C'ho il... Ah, piuttosto, visto che ci sono, ma la DB Grid per le varie colonne, per rimpicciolire il campo, me lo fai rimpicciolire, qual è la proprietà da toccare? Tu gli fai il doppio clic nella DB Grid e ti apre l'altra maschera di settaggio delle colonne al quale puoi legare ogni singolo campo, no? E quindi lì poi c'hai il width, la larghezza, e te la setti. Ah, non è automatica, no? Io poi l'avevo vista lì, però non mi ricordavo se c'era o meno la possibilità di farlo anche a mano, cioè l'utente potesse, diciamo, ridimensionarla al volo. Allora, se tu accetti il passaggio che ti dà, semplicemente avendogli collegato il suo data source, poi nelle proprietà della DB Grid gli puoi dire column resize, e quindi l'utente può allargarle e restringerle. E quella è la proprietà generale. Altrimenti, se facendogli il doppio clic nella DB Grid ti apre il pannellino dove puoi settare in maniera particolarizzata ogni singola colonna e cambiargli le varie proprietà, e quindi colonna, font, titolo della, del campo, eccetera eccetera eccetera. Sì, va bene, va bene. Comunque sta andando, con quella tipologia di connessione che ho fatto con le cose, con il con le query. Va veramente bene, molto molto veloce. Buono, no, da questo punto di vista gli MDB fatti in questa maniera ti veramente ti risolvono, cioè ti permettono di fare un applicativo in 448. È molto fruibile sotto quel punto di vista, veramente molto fruibile, e poi è sempre gradevole la parte grafica, per cui che fa il resto in sostanza. Sì, andando adesso c'è da buttare giù un po' di codice, un po' di vedere un attimino la GUI come realizzarla, farla per essere più fruibile possibile, poi e ne è fatto, come dice Panti Grodde. Vabbè, lo zingaro spettinato non ha gana, quindi vabbè. Comunque io ho fatto un paio di dita sabato, l'altro giorno non l'avevo bucato, non ho preso misure né niente. Dall'ultimo bullone fai un tre dita e buca. Ok, quindi siamo sopra il legno, giusto? Sì. Poi ho provato a bucare leggermente più sotto, ho beccato il... diciamo la platica o il legno, ma l'ho inclinata verso l'alto e l'ho bucata e sono uscito subito, perciò eravamo lì, eravamo, capito? L'ho bucata da 3,5 e ho fatto il forno, non ho fatto grande, ho fatto piccolino, ne ho fatto 3 e sono più che sufficienti. Perfetto, quindi 3 litri, stiamo parlando di un 4 centimetri, non di più. Allora, adesso mi misuro le 3 dita, te lo dico. Le mie 3 dita sono 5 centimetri e mezzo. Va bene, 5 centimetri e mezzo approvato. Alla 4. Tanto tu buca con una punta piccolissima, così se è sbagliato poi tirai su e non indebolisci nulla, non succede niente. Sì. Perfetto, questa è una cosa, mi sa che mi faccio domani. Allungo il cavo per il trapano e salgo su. I software erano il Rumac 10, Mando Equalizer. Era, ti ricordi quando stavo cercando programmi che permettessero di pulire l'audio in ricezione? No, non ho avuto modo, sinceramente, con varie vicissitudini sia del bambino che lavorative, non mi hanno portato a fare, a controllarlo. Beh, poi alla fine cosa stai usando? Alla fine ne ho provato due che grosso modo si sente che danno qualche aiutino, però ho difficoltà nel settarli e quindi per ora non li sto usando. Sto cercando il seriale del com'è che si chiamava quel programma? Del Radiocom, il 6.0. Quello è, anche nei forum ne parlano tutti quanti di questo qua, è proprio, sarebbe quello più adatto. Però acquistarlo costa oltre 270 euro. E quindi stavo cercando un seriale valido per poterlo installare. Quello permette di, in pratica, di lavorare come se tu avessi tutti quanti i filtri nella radio. È proprio usato dagli OM e da tutti quelli che hanno necessità di pulire l'audio in arrivo. Ah, io ripeto, io usavo il 5.1 e andava, però mi stavi dicendo che non funzionava. Qua ne sto vedendo vari sul sistema che funzionano. è tipo 5.1, tipo 5.1. Sono questi qua, ma sicuramente sono la maggior parte sono tipo di Trojan e B, sono sicuro. E poi, comunque, quelli che ti ho mandato funzionano, vengono installati correttamente, eccetera, eccetera. I 5.1 sono fino a Windows 98, quindi il problema era che con salto di release, avendo almeno una macchina con Windows 2000 o con Windows XP, hai bisogno di avere la versione superiore, capito? Quello più completo mi sembra il ROMAC 10, Band Equalizer, che ti ho mandato. Però bisogna capire un pochettino come utilizzarlo, poi tra l'altro bisogna vedere anche la piattaforma, perché io ho il media player nel portatile, la Windows XP Media Player Edition, e quindi può anche darsi che forse su qualche altra release di sistema operativo funzionino un po' meglio. Se vedo cosa trovo, una ricerca, se vediamo, ti trovo qualche cosa, te la faccio sapere. Guarda quelli che ti ho mandato intanto, prova quelli, poi casomai tu trovi l'arcano, sono tutti DSP, per SVL, capito, quindi è proprio per pulire l'audio in arrivo. Va bene, ma io ti sbaglio, ti sono. Gianni ti ha detto di riprendere un attimino, Grotto non si è caduto dalla sedia, Fabrizio è in ascolto, sta facendo roba anche lui, poi non so se c'è qualcun altro, chi c'è si faccia avanti. Io già ci sono. Con l'apparecchio. Io. Ciao Gianni. Sto togliendo dall'alloggiamento, vai. E sto pulendo tutto il mobile oggi, oggi sono in pulizia. Sì, io. Ma come faccio a sincronizzare la posta sia di Android che del PC e dell'iPad tutto per avere tutto uno? E usare il protocollo IMAP. Perché IMAP? Io sto usando, se non sbaglio. Allora, IMAP ti permette di fare una connessione multiutente, cioè nel senso che puoi collegarti in questo momento da più terminali e poi quello che fai in un terminale viene sincronizzato nell'altro automaticamente. Come faccio? Invece di usare, adesso non so, che io per esempio che ho Tiscali, invece di fare pop3.tiscali.it nella ricezione della posta, nel pop, remap.tiscali.it. Allora aspetta, allora, account, aspetta, stacco tutto qua perché qua si sta incasinando tutto, aspetta di qua, che inverte dall'altra la serie, questa è quella di Windows Live Mail, dove cavolo era l'account per modificarlo, per me, non c'è più nessuno. Fuggiti, c'è lo zingaro spettinato, è uscito fuori, con tutto quel vento gli ha compigliato i capelli ed è adesso in casa facendosi la piastra per ricomporsi i capelli. Ciao, si è allontanato, qua è su, si è allontanato, non mi manda raccomandato, non mi avverte, boh. Anto! Sta operando, lasciatelo fare. Lascialo fare. Allora, io oggi al lavoro, come cavolo sto Windows Live Mail, quello proprio di Windows 7, perché ho cacato sull'altro, lo configuravo, questo qua lo vado su, allora là prima di tutto, allora, vado su account dove c'è su, ma non me lo va. Allora, prima di tutto, prima di riprendere contiamo sempre fino a 3 o a 5, se no poi dopo esce un problema. Poi non urliamo sui microfoni, per terzo un caffè a tutti. Allora, adesso stai parlando di Windows 7, stai parlando? Sì, Windows, non so come lo chiami tu, Windows Live Mail, quello comunque di Windows, non il programma, che è un altro, non il programma. Allora, io sia su Windows, su Linux, su Macintosh, ho un client di posta elettronica che si chiama Thunderbird, che è del gruppo di Mozilla, per intenderci quello che fa Firefox. se vuoi ti consiglio di scaricarlo, tanto costa solamente 1.854 euro il primo mese, e poi ogni mese versi una quota sul mio conto di 500 euro, se è a posto. Scherzo, è gratuito. E con quello lì, guarda, è semplice, facile. Poi un domani che devi formattare il computer, o spostare, o fare una copia, un backup, che cosa, c'è una cartellina, copi tutto quello lì e c'hai di nuovo tutto quanto a posto senza riconfigurare nulla. Se vuoi un coniglio o una lepre, scaricati Mozilla Thunderbird e installatelo, e poi ti aiuto a configurarlo. Oggi voglio stravolgere, mi ha detto di cambiare questa impostazione, sto provando su questo programma, invece di poco mettere quest'altra cosa qua, hai capito? Allora, fammi cambiare questa cosa, io questa cosa dovresti a provarla. Ti posso aiutare perché io quello lì non ce l'ho. Aspetta, io uso Thunderbird, client di posta elettronica. Vabbè, non uso quello, non mi piace. Non mi voglio complicare ancora di più, che questi giorni devo fare tre cose. Una cosa alla volta. Adesso mi sono messo a fare tre cose alla volta, volevo sincronizzare il telefonino. Questo iPad non è ancora collegato al computer per vedere con quella roba là, quel programma l'ho scaricato per gestire, per vedere un po' di cose, visto che non è adesso. Però come la cosa è la cosa che mi sta creando più problemi, perché carico con uno, faccio con l'altro, poi mi trovo un email qua, un email là, è un casino. Fagli la connessione con Abby o Massimiliano e così gliela fai vedere direttamente. Già c'è in più. Cosa glielo faccio al volo, glielo faccio, non ci vuole niente, ci vuole farlo. Mi spaventa per queste cose. Fabrizio, Verginello. Oh, sono Verginello, sono poche volte provate, ho capito. Non è che ho mangiato un rago, io già l'ho presa poche volte, capito? Non sono così esperto, quindi non capito. Poi ci prendi l'abitudine. Se mi piace più sono fregato, è quello il problema. Vabbè, Allora qualcuno che ha fatto gli esperimenti assieme a me, che tuo software, dai. Un volontario. E dai, passami lì di la password. Fabri, dai, veloce. Sì, parole grosse, come mi stai dicendo, aspetta un attimo, pian piano, che queste parole grosse, mi chiamerei chi li usi, che non mi tempo di controllare. Con cosa conviene? Con accesso a un altro giorno, sì, dove cavolo è? TVU, come dire, TVU 7, così è. TV7. Sì, TeamView, dammi le ultime tre cifre, tanto ce l'ho registrata nella cronologia. Allora, 038. Allora, le 038 sono le ultime tre cifre. Va bene, dammi la password. Per aggiungere? La password io non ce l'ho, se non me la dai, come faccio a entrare? Vediamo un po' se... No, la password. Subito. Un attimo, fammi trovare, ora sono così semplice, mi chiedi così, allora mi chiedi le cose molto velocemente, io sono lento, perché io le cose le faccio lente, ma non mi affretta, che ti devi dire, avviammi, aspetta, Non c'è, riflettici Fabri. Nuove tecniche di trasmissione, buonasera dalla città di Ferro. Contate fino a 3 e fate un piccolo spazio tra un passaggio e l'altro, spengo la radio. Avanti Sandro. Carlo, buonasera. Ciao Fabrizio. C'è invece la Massimiliano, mi sembra che c'era Salvatore. Insomma, se ho sbagliato correggetemi. Avanti, corri. Ciao. Ciao. Ben sentito, Salvatore. Sì, c'è Fabrizio che è in attesa di aprire le sue grazie a Massimiliano in questo momento. Ho capito. Va bene, va bene. Niente, stavo provando giusto un 48. Sono poco, mi ascolti? Ma come al solito. Il segnale come al solito, bene. Né di più né di meno. La radio è buona. Mi sembra che vada bene. Ok. Perfetto, va bene. Niente. Adesso che mi sono ricordato, Massimiliano. Massimiliano. Passando, dimmi. Ciao, buonasera. Ascolta un particolare. Siccome mi sono documentato anche su internet riguardo la connessione su Turner Super Siderik alla 48, che mi ha fatto un po' impazzire, e quando l'altro giorno ne stavamo parlando con Claudio e mi stava dicendo, diciamo, che il suo ha 5 fili, invece il mio ha 4 fili. Del microfono parli? Sì, il microfono, la base, il Turner Super Siderik nero. E allora? No, perché siccome mi stavo facendo impazzire, io avevo chiesto le connessioni lì a Claudio, perché anche Claudio mi sembra che ce l'abbia montato su 48, però Claudio mi stava dicendo che il suo ha 5 fili il connettore, invece il mio ne ha 5. Dobbiamo capire se uno dei due è stato modificato. Ecco, infatti quello che stavo pensando anche io, perché io mi sono documentato su internet, ho visto alcuni passaggi e mi fa vedere che ne ha solo 4, non 5, tutto lì. No, se sapevi per dire il cablaggio. Sì, certo che posso dire il cablaggio. Allora, vediamo un po'. Lo schema, sono lo schema, diciamo, solamente lo schema di questo. Sono 1, 2, 3, sono 4 fili devono essere. Sono 4 fili, allora c'hai il microfono e poi c'è la commutazione e la massa, basta, la commutazione normalmente aperto e normalmente chiuso, cioè normalmente aperto e l'altro è chiuso, la massa, basta, non c'è nient'altro, sono 4 fili, 4, sì, 4 fili, perciò il giusto è quello a 4. Ma scusa, ma il problema del ritratto di fili, vabbè, è un intervento, diciamo. Io ne ho 4 più la massa, ti ho detto, non 5 più la massa. Allora Claudio, buonasera, io ti ho detto che ne ho 4, un bianco, un nero, un rosso e un calza. Te ne manca uno, non c'hai il, cos'è che ti hai detto, il bianco, il rosso, il nero e la calza, e il piccio il giallo, più la calza. Tu già ti avevo io questo, ho comprato un nuovo microfono, ce l'ho una vita, non l'ho mai toccato, non è mai stato modificato il Turner più 3, quello più 2 l'ha messo a posto Massimiliano, ma io quello l'ho comprato nuovo, ti ho detto, non l'ho mai toccato, quindi i fili sono quelli, perché la calza, la mia, va assieme al bianco, capito? Ed è connessione all'AN 48, va bene, non tutti i baracchini simili all'AN 48, capito? Vabbè, voi un po' Massimiliano, io i miei, le connessioni mie te le date, se non va bene non so qual è che è diverso. Il mio è Super Siderik originale adeguato dall'estero, perché l'avevo comprato da un radioamatore, te l'ho già detto. Un colorino, non so, non l'ho mai visto, Sandro, il tuo, se vuole questo, se è diversa serie, perché ce ne sono tanti, non lo so. Vabbè, vedi come Massimiliano, ora io mi sto ascoltando. Ah, oh, Claudio, ascolta, allora, in realtà sono, io faccio lo schema originale della TAN, sì, va bene. Una SMS. Allora, il bianco è il microfono, e poi c'è il nero è normalmente aperto, il rosso è normalmente chiuso e la calza, basta, non c'è altro. Gialli qua io non ne vedo come colori. Questo qua è dallo schema originale della Turner Division. poi ci hanno fatto qualche altra release, non lo so, però io con questa mia sorella, insomma, poi il tema, due tipi di carne che si desideri, uno con la commutazione elettronica, l'altra con la commutazione a relè, però le connessioni non cambiano, sempre le stesse. Giulia! È ok? È ok? No, perché insomma sono andato un attimino anche sulla ricerca per a ricercare un attimino lo schema, diciamo, e così via. Adesso non so se il mio è la prima, seconda serie, se quello di Claudio è prima, seconda serie, comunque fatto sta che mi sono documentato e ho visto che c'ha 4 cavi, diciamo. C'ha 4, non 5, 4 compreso la calza, e siccome mi stavo facendo un po' impazzire con le connessioni, che mi fischiava, capito, non entrava in modulazione. La portante, diciamo, va bene, è soltanto, diciamo, in parte modulazione, diciamo, tutto lì. Funziona il microfono, non è che magari c'è problema il microfono. Comunque, l'uscita, cioè la parte microfonica, la parte più del microfono è il bianco della macchina. Controlla che sia a posto, che non abbia problemi il microfono, poi non lo so. Ripeto, i colori sono quelli che hai detto tu, bianco, nero, rosso e calza. Il bianco è il microfono, il nero è normalmente aperto, che poi sarà quello che dà la portante. Poi se normalmente è chiuso, per quegli apparati che quando togli il microfono ti sentono la ricezione. E la massa, basta, non c'è altro. Massimiliano. Ora, uno, due, tre, prova. Sì, che stai uscendo già. Ciao, ciao. Non perché non mi rispondeva, pensavo non si uscì. No, almeno da parte mia, tutto ok. Va bene, ok, Massimiliano, dai. Adesso vedo un pochettino. Io, vabbè, ma Gianni, tu sei, sento, forse siamo troppo vicini, e la radio ti scarta, aspetta che metto, proviamo così, vai Foglia, prova adesso. Guarda a vedere, ho detto adesso l'apparato l'ho tolto, se posso portartelo poi quando vuoi lo cominci. Oh, guarda, adesso quest'altro mi viene male, poi casino. Dai, ci sentiamo domani mattina, così me lo avvicini e lo, così poi te lo posso fare. Vabbè, non c'è problema. Ok, prendi, riprendo io, grazie. Ma ho visto la terra facendo quello che vuoi fare, dai, fai. Tu lasciati servire, prego, non ti preoccupare, stai tranquillo e sereno. Oh Salvatore, gli sto formatando il computer, va bene va. Perfetto, che Fabrizio non ha fiducia. L'unico consiglio che gli volevo dare era di mettersi vicino al portatile un bello vasetto di che può servire. Di ragionamenti mentre lo vedo abbondare. facendo adesso, adesso mi esploderà tutto. Comunque, dopo, approfitto per fare una cosa, tu devi battere il ferro finché è caldo, dopo di fare una bella ricerca su internet e guardi esattamente quelle che sono le peculiarità di una connessione a un server mail IMAP e una in modalità POP. E così vedi un pochettino che cos'è che ti permette di fare una e l'altra, capito? E così riesci ad apprezzare di più le differenze. Se no, sai che è stata fatta, sì, sta funzionando, però non ti completa il discorso. Cos'è? C'ha la stessa mia IDG. Siccome ci ho già sbattuto la testa io e te fa dietro, se lui si lascia servire, gli risolve il problema in un attimo, senza nessun problema. Il ragazzo è un po' così, capito? Poi, quando a forza di frequentare degli altri personaggi dell'est, allora si dice così, ah io metti la fai, bravo, così, fai continua, dai, premi continua, non avere problemi, così, bravo, ecco. Adesso non toccare niente, sì, ce lo sta già proponendo i map. Questa è una roba seria. Allora, abbiamo scritto il giusto questa roba qua. Controlla se è tutto giusto. Va. Controlla se è tutto giusto. Il password si è messo male. Posto. Dovrebbe essere, io, infatti, è lì se la sono ricordata, che è strano, No, ma poi io ho una cosa, non so se un difetto o un peso, quando vedo qualcuno che sa fare una cosa, che la sa fare, che sta facendo una cosa, che la sa fare, che so, una cosa da fare anche la volta, che la sa fare quanto me, e anche più di me, io divento passivo al massimo, ti lascio fare, divento passivo, non, perché sono sicuro che la fa. Sicuramente, come me, sicuramente è meglio di me se più bravo e quindi divento passivo, non sto nemmeno a vedere cosa succede, capito? E mi rilasso, come sto facendo adesso. Allora, io ho già configurato, vedi che è già configurata, adesso ce l'hai già come servizio in map. Io andiamo su impostazioni account, impostazioni server. Ce l'abbiamo già, vedi, come nome del server IMAP, ok? Adesso devi andare, facciamo adesso con, guarda che c'è l'altro qua, con l'iPad. Adesso se prendi l'iPad in mano, ti dico i passaggi che devi fare per configurarlo. E se lo collega al computer, non si vede? No, no, non esageriamo adesso. Allora, dimmi cosa devo fare. Devi avere la connessione in rete, però tramite il 3G fallo. Ok. Allora, facciamo tramite 3G, lo devo fare così. Oppla, yes, ragre. Togliamo tutto qua, facciamo yegre, rag. Guarda, ci sta incoglionendo tutti con questa tecnologia, secondo me, da un po'. Quindi se continuiamo così non addirittiamo, non avevo più, te lo dico io. Aspetta, qui siamo a posto. Adesso qui te lo devo scollegare da quella di casa. E mi collego a Android. Da un po' ci siamo. Adesso ci siamo, perché altro che fanno bussare. Allora, l'iPad è collegato. Allora, vai su impostazioni. Ok. Posta contatti e calendari. E tra i club e Twitter. Sì, ok. E dimmi dove, anticipami dove. Adesso lì, una volta che hai fatto posta, contatti e calendari, nel primo riquadro dove c'è scritto account, c'è scritto aggiungi account. Ok, Gmail. Io solitamente faccio altro, lo metto a mano, però fai anche Gmail, dovrebbe andare. Nome, scrivi il tuo nome, email, la tua email, la password, quella classica, la tua. E la tua è già configurato però. Non so, allora l'hai già configurato tu. Quella cosa sì, aspetta, la cosa qua sta già funzionando, è di già funzionando? Sei nel tuo account di posta elettronica e cliccaci sopra e dimmi se ti compare nella finestra che ti si apre i map. Allora, adesso esco da qua, email, mi appare posta elettronica, ho aperto la mia posta, giusto? Ma io ti ho detto di aprire la posta elettronica? Io ti ho detto di stare sempre lì e di aprire dove c'è scritto account, sopra aggiungi l'account, c'è la tua posta elettronica. Dobbiamo controllare le impostazioni, sapere se sei in IMAP o in POP3. Ok, ci sono posta, intanto dove devo andare, se sono account, vediamo qua come mi dice, alla Fabrizio Gmail, smtp, ora, avanzate, IMAP, prefisso percorso dovrebbe essere IMAP. Vabbè, se IMAP va bene. Allora, facciamo una cosa, io se ti mando un messaggio di posta elettronica, tu lasci aperto sia il computer che, allora guarda, il computer tanto lo vedi da qua, e anche la posta elettronica dell'iPad, e vediamo se ti arriva in tutti e due, senza nessun problema. Ti è arrivata, sull'iPad ti è arrivato? Ancora no. Vai, sincronizza, sono entrata e te lo dovrebbe sincronizzare. Allora, poi ti arrivo, invio uno di uno, adesso c'è qualcosa che sta arrivando, quello che mi senti di uno di uno. No, invio di uno stai spedendo? Questa specie di portantina. Non si è arrivato niente, come aperto. Fai una cosa, chiudilo, chiudi il programma con il doppio clic del tasto home, tieni premuto nella barra che si apre sotto, da quando compaiono i debiti d'accesso. Così chiudi gli applicativi e poi riapri la mail. Vabbè, chiudo e poi riapro, no? No, non viene chiuso in realtà. Aspetta, fai doppio clic del pulsante home, l'unico pulsante che c'è nel frontale dell'iPad. Si apre un riquadro in basso. Sì, e poi guarda. Naturalmente devi uscire prima dalla posta elettronica, se no non te lo fa vedere. Quando ti si apre, vedi una serie di icone. Ne premi una e mantieni premuto fino a quando si mette a vibrare tutte le icone e compare il divieto d'accesso nell'angolo in alto a sinistra delle iconcine. Lì basta che premi lì e viene chiuso l'applicativo realmente. No, solo l'applicativo, meno quello chiuso. Via quello. Ok, chiuso. Sì. Ripremi il tasto home che si rimette a posto. E poi riprendi e riapri email. Fatto, io se arriva. In alto a sinistra c'è il pulsante entrata? No, non sto dicendo niente, lo sai. Cancella. Forse in arrivo. Niente, non sto arrivando. Allora, non l'hai configurata bene quella cosa. Allora non l'hai configurata come si deve. Riprovo, allora. Casella, bozze, autenticazione e password, prefisso percorso, IMAP, porta server e va bene. So, facciamo una cosa, diciamo così, sei in postazioni, posso portarti in calendari? Sì, aspetta che esco allora, aspetta che esco così. Adesso vado nella mia email, Gmail e ti leggo tutto, adesso dove devo entrare? Se tu clicchi in account dove c'hai, adesso non so quanti ne hai di email, ma se tu vai nella tua, quella Gmail, ti si apre un riquadro dove c'è scritto il tuo nome con Gmail o quello che è, e subito a basso dove si trovare un grande pulsante rettangolo rosso con elimina account. Sì, volevo eliminare. Eia, lo facciamo nuovo. Sicuramente hai sbagliato qualche cosa. Fa prima a eliminarlo e rifarlo. Tanto poi ti viene risincronizzato. Ok, dai, aggiungi account. Lo faccio con Gmail o faccio altro? Fai altro, no, che facciamo prima. E poi ti apre posta, aggiungi account mail e fai quello. Ci metti il nome, il tuo nome, email, la tua email, la password, quella la tua, in iscrizione ci puoi scrivere quello che vuoi e poi fai avanti. Sì. La password, sì. Metti la tua password e poi fai avanti. Poi ti si aprirà una nuova finestra, la finestra account. E lì ci deve essere selezionato in blu i map, cioè i map e pop. Devi selezionare i map in blu. Andando, cerca account, adesso lo sta cercando, lo sta cercando. E tu va a cercarlo. Trovato là, sei adesso nella finestra account. Sì, cerco account, ho messo nome, email, no? Punto, ok, gmail.com, è giusto, sta cercando, è lento. Magari c'è la connessione lenta. Dai, tanto se hai sbagliato la password te lo dico. Perché non mi posso collegare con quello di casa? Ce l'ho fatto perché poi dopo devi, dobbiamo configurare il sistema per porta in uscita, che tu c'hai la 3. Se tu lo fai con fatto con il wifi di casa, non te l'accetta perché non lo trova. Lo devi fare con il vettore che usi solitamente per vedere la posta, che in questo caso è il telefonino. Ho capito. Allora, i mappo, sono arrivato tutto a posto, questo devi dire quei mappo? Sì, devi selezionare i map, deve essere blu i map. Poi ti ripropone nome, email, descrizione, quelli che hai messo prima. Poi nel server di posta in arrivo, nome host, ci devi mettere, adesso ti dico cosa ci devi mettere nell'host, aspetta un attimino, che io l'ho già fatto qua, che è questo. Allora, ci devi scrivere, dimmi quando sei pronto che ti detto cosa ci devi scrivere nel server di posta in arrivo. Nome host, posta in arrivo, ok. Nome host ci devi scrivere IMAP, Imola, Monza, Ancona, Palermo, punto, Google Mail, Genova, Otranto, Otranto, Genova, Livorno, Empoli, Milano, Ancona, Imola, Livorno.com. Il nome utente ci riscrivi la tua email per intero, password, la tua password. Poi quando hai fatto questo dimmelo che ti do altre impostazioni. Ci vediamo, stiamo uscendo, ci sentiamo nel caso domani, buon proseguimento, buon tutto. Salvatore, ci sentiamo domani, buon proseguo. Ciao, buon proseguo. Allora, nome host, imap, punto. Google mail.com. Esatto, tutto attaccato. Password, la tua password. Poi quando nel server di posta in uscita ci devi scrivere SMTP come Savona, Milano, Torino, Palermo, punto 3 in lettere, punto ID. Nome utente, password, quindi non ci metti niente. Fatto vai. Aspetta che forse ripetimi quello in uscita. Allora, nome host, SMTP come Savona, Milano, Torino, Palermo, punto 3 scritto in lettere, Torino, Roma, Empoli, punto IT. Allora, SMTP.3.it. SMTP, Savona, Milano, Torino, Palermo, www.3.it, 3 scritto in lettere. T-S-M-T-P, non 2T. Esatto, SMTP. Sierra Mike. Punto Palermo. Punto 3.it. Ok, quindi c'è il nome utente opzionale, non glielo metto. Esatto, né nome utente né passo. Vado avanti. Yes. È lei poi la... In possesso con l'utilizzare del tuo programma a configurare la conta senza SSL. Sì, ok. Sì, poi per quell'altro sono stupido, ti risposta a quella domanda che ti hai fatto. Grazie, se il bambino dico la stai dicendo, ma c'è. Ci può fare una chiamata? Anche 10, vai qua. Attenzione Mauro, lui ci mi sta chiamando, ma non si capisce perché non l'ho scelto. Attenzione Mauro, forse l'hai detto, ma ce l'ho passaggiato o attaccati. Mauro? Aspetta che ci spostiamo, cracco, io facciamo il brevetto tuo canale, infatti, là. Ma non me l'ha fatto io, mi ha telefonato, non le rispondo, ti sto ascoltando. No, vabbè, lo chiamo al telefono, per usare, come è successo? Continuate, ciao a tutti. Ciao, cracco. Allora, perché mi dice Ima? Google.com non risponde, contro la connessione noi ci ricarica le informazioni inserite nel campo se le reali siano giuste, ok. Sicuramente hai sbagliato il livello. Allora, imap.googlemail, allora ti rifaccio lo spelling. Imola, Milano, Ancona, Palermo, punto. Genova, Otranto, Otranto, Genova, Livorno, Empoli, Milano, Ancona, Imola, porno.com. Giusto, giusto, giusto, giusto. Non mettete, ci devi scrivere la tua email, zero, poi c'è la gmail.com. Giusto. Giusto, bravo, giusto. La faccio, la riscriviamo, se è sbagliata, non sa mai. La faccio, è a posto. Guarda quello in posto in uscita. E parla, posto in uscita siamo. Savona, Milano, Toronto, Palermo, punto 3.it. E 3 scritto in lettere naturalmente. Guarda il computer, mi che ti ho visualizzato la schermata dove c'è il nome del server, e te l'ho sottolineato in blu. È giusto, è lì. I dati sono questi, come se li abbiamo messi sul computer deve andare sull'iPad. Adesso. Detto sei sicuro, ok, detto sei sicuro vuole salvare, salva, però salvare. Salvare tutto, salva tutto, una volta che è terminato arriva in mail e si mette a sincronizzare tutto. Dice anzi un messaggio selezionato, no, c'è qualcosa che non squadra, contro l'opposto, vediamo cosa succederà. Ok, è entrata, prova ancora, è arrivata, ma non sulle carte. Va, adesso faccio una cosa, ti faccio uno screenshot così. Vedi come l'ho configurata, così vedi come deve andare. Black, avanti. Buonasera, sono Negaro. Avanti Black. Buonasera, sono Negaro, mi sentite? Sì, molto via, avanti. Sto usando un baracchino professionale, un po' caldo. No, la radio è molto buona, solo che troppo amplificata mi sembra. Non lo so, è qualche anno che non l'accendo. Chi è? Dai, prendilo tu, che noi ci spostiamo, che sto configurando una cosa. Dimmi, ascoltati solo 16. Io sto uscendo, volevo chiedere chi era, perché non ho capito neanche chi è. Sto uscendo io, Fabio. Sto tornando la mappa. Sono Riviero, chi sei? Non ho capito, cioè una modulazione pessima, non ho capito chi sei. Una invece buona, tu pessima. O Riviero. questo secondo me non è un toccai, quindi non venire a pensieri a me, per questo è un toccai, abbassa o stacca il processore o abbassa il wiki. E cosa sono? Sono ridane male. È tutto trappato, non ti capisco, ti ho chiesto chi sei, non ho capito, io sono Claudio Sparviero, mi sento male, sei tutto trappato. Ehi, buonasera Claudio Sparviero, Oliviero, Colombo sincero, Oliviero. Forse l'antennino che non sta funzionando sul balcone. Viero, già fa, Oliviero. Oliviero, ma io lo ascolto male, perché è tutto trappato qua, non lo so. Da che zona stai modulando? Via della Malfa. E allora è per quello, anch'io sono via della Malfa, arrivi tutto trappato, sei troppo forte. Ah, e anche tu, tutto a manetta. Capito, la torre, il grattacielo, capito? Capito qua, la torre, il grattacielo, poi ci sono tutte quelle antenne sul tetto, come i piccioni. No, io sono più basso, è più basso. Gli altri mi sentono bene? È un po' cupo, Oliviero. Vai bene come radio, ma sei un po' cupa, capito? Il segnale, com'è il segnale? Segnale 69 più 5, è radio 5. Appa, appa. Un bacio di via la mappa, dove sei? Dove c'è l'edicola, dove sei? Dove c'è la rotonda? Sì, a 50 metri da me, come faccio a ascoltarti? Sì, a 50 metri da me, io sono su metropoli edicola. Non lo so, non lo so. Io sono dove c'è la rotonda sotto, vicino al gommista. Vicino al gommista? Io. E quello via la mappa, secondo te? Non è via la mappa? È vicino, dai. Io sono in via la mappa. Non ho problemi. Io sono in via la mappa. Sono CB e anche radioamatore. Però io ti ascolto male. Sei molto cupo, non riesco a... Ho messo i filtri qua, ma no. Non ho concluso niente. E se vai con l'8 50, mettiti con l'IP. Perché lo stesso problema che ho io con Gianni, che mi è arrivato quanto strappato, che non incomprensibile, invece con l'IP riesco a sentirlo bene. Prova un attimino, inserisci l'IP e vedere un po' se riesci a sentirlo meglio. Come mi senti a me, amico? È comprensibile, però la modulazione è cupa, è abbastanza chiusa. C'ho questi microfoni. Il segnale è buono? Prova. 1, 2, 3. Sì, è buono, è buono. 9.30. 9.30 con l'antennino sulla finestra. Dopo sì, ma sì. E sicuramente non usa l'antennino nella finestra. Sicuramente no, neanche un toccai, sicuramente, perché io manco con l'IP riesco a sentirlo là, di quanto mi sta arrivando forte, perciò. Va bene, dai. Claudio. Infatti, perché arriva più forte di Claudio, io, basta. Sto per. Sì, beh, non c'era bisogno di dirlo pure, l'ho già scoperto io. Dopo 20 anni, cioè dopo 40 anni credo di poter. Ma come siete di vigente, per esempio? C'è una crescita, perciò. Lo abbassi, ho tolto il processore. C'è stata una sovrammodulazione. Tu devi essere più sincero quando parli, ti ho chiesto, tutto qua. Io te l'ho detto, sono Oliviero Colombo Sincero, sono vicino a Niulu, sotto, tu sei quasi a fondo scala, l'altro non lo so. Sì, ma non stai usando un baracchino, perché io non ti sento bene, ti sento tutto trappato, tutto messo male, hai capito? Quindi quando uno parla, perché te lo controllo, deve essere sincero, se hai paura di qualcosa, non lo so, io non ho paura di niente, ti sto ricevendo con un 850 della Kenwood, ho provato con 950 della Yaesu, ho provato con 440, ho provato con 430, non ti sento bene, quindi c'è qualcosa che non va. O abbassi, se no non ti posso rispondere. Forse sono fuori. Allora, io sto usando questo baracchino per fare lineare e questo ZG2135, adesso te lo stacco, guarda. È così. Come? È così senza lineare. Io con pochino. Sì, segnale non mi interessa, perché ti attimo riesco a abbassarlo. È la modulazione che non capisco, capito? Quindi ho capito di dire. Vabbè. Ok, perdonami, io devo uscire che ho un appuntamento alle 7, perché ti faccio tardi. Ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao Giorgio! Non deve essere questo microfono di tavola. Vabbè, ciao a tutti. Ciao Oliviero, anche da parte di Farchetto. A Farchetto. Ciao Oliviero. Ciao Antonio, ci sentiamo più tardi, dai, non vedi, adesso non ho niente qua, devo fare una commissione. Sì, a dopo allora, ciao. Che folletti che siete, che folletti, la mazza ve ne sento. Perché? A Giuppi e all'altro. Ah, invece a me non mi hai fregato niente. Sì, vabbè, ma non riconosci più la modulazione. Ti rincoglionisci. Ciao a tutti, carissimi, un abbraccio, è una delle frequenze più belle che esista. 11 a 13, 9.50. Non vero che non mi hai chiamato. Ciao, guarda, tutto bene. Sì, bene. Sto usando questo baracchino, l'FT 9000DX, col quadra, col VL1000, ma già va bene lo stesso. Che non dire lì? Col quadra. Ma dove sei, giù o su? No, lì punti. Le punti non ce ne fanno nessuno qua. Così, 9.50. Non riuscivo a capire, vabbè, sta per camuffando la modulazione, perché così ti ascolto. No, se no è facile, no. Ma non esce bene questo, eh. Sto usando anche, fra l'altro, l'EQ Plus un po' per il numero di fondo. Non esce benissimo in AM, in FM sicuramente sì, ma dovrei fare delle regolazioni. L'MD1 sto usando, di tavola. Ciuppino! Ma a me io, cioè, dopo 40 anni le pubbliche, ok, non esce così, è forte, però è bella chiara, modulazione, questa è cupa, è boh. Hai visto che è morto un giocatore, non si gioca stasera? L'ho letto poco fa su internet e sono qua che mi stavo settando un po' di programmi, ho preso quello metto Massimiliano Splash Top, che ormai l'ho messo un po' dappertutto. E quando sono andato di nuovo su a Paglianettisca lì l'ho letto. Guarda, cosa devi fare? Ci sono queste cose, sono sempre antipatiche. Mi piace veramente. Un ragazzo giovane, è triste, va bene. Massimiliano, ma tu mi devi 9.42, Massimiliano 9.50, Falchetto 9.20, e poi non so se c'era altra gente. Io sono con 140 e 30 watt, 40 modulati, non so dove stia usando Massimiliano, ma non l'ho mai sopportato tantissimo, anche qua. Non sono sceso al secondo, ma non me la frutta, non può importare che sia sceso al secondo, che non sia rimasto nella strada. No, già vedo bene, io sono adesso a manetta, è 1240, la metà, però penso che non cambi niente. Io non cambi niente, con la scala sì, ho 140, se invece non ti capivo, ma niente, ma tu non sei qua, non sei qua, o se sei qua... Non stai usando antenna sopra il balcone. Si sta preparando una nottata da proprio da pazzi. Non so se vedi l'aria da lì, qua a Calma, è completamente nera. Te la guardo, se mi affaccio sì, perché è vero dalla mansarda. Io ho abbassato tutto quanto il sistema. Se no, però un falso allarme, ne approfitto a fare dei lavori. Ho trovato una bobina incendiata con Antonio, incendiata proprio. Adesso poi vediamo. Ciuppino, che fine hai fatto? Ciao guarda. E allora? Tutto bene? Certo, di riusciti la parte. Sempre sorvolando come i falchetti. Volando, sempre più vigile. Questo periodo non ce n'è, no. Siamo tutti incasinati, mi pare. Si conferma, purtroppo è così va. A te. Non dire a me, perché sono incasinato perso. Non riesco a chiudere mai il mese. Dimmi, Claudio. Ho comprato la stazione di Braccio di Ferro, ti ricordi a Pietro Braccio di Ferro? Ho comprato un bel baracchino, un Galaxy Uranus, nel 96 per il 97, un faccia che cammina, non so se si chiama marca così, faccio di ferro, di Sorcerer. Sì, allora. Ah, io non lo ricordo. Ma perché è morto? È morto nel 97. Incidente. Ah, c'è una malattia. Mi dispiace. Mi dispiace. E Massimiliano che ci è uscito? Sono questo, secondo me, non a prendermi. Prego, fare una commissione. Ma quella qua, non so se sono spostati al 16, stavano facendo le prove con Fabrizio. Non ho più sentito, vabbè, non sto entrando qua, parlare di Roberto Quadrato. Spero che qualcheduno lo senta, me lo salutate, e che continui ad andare a provare a fare qualche esame, invece per Galimberto e per gli altri, sta diventando uno schifo qua. Non sono motivati, no, Walter. Roberto so che sta studiando, deve andare anche Fabrizio, deve andare Antonio Grotte, quindi gli altri non lo so. Però motivazione è vero, capito? Non si può fare una cosa del genere, cioè ogni sessione 20 ce ne sono e 20 le crepano, cioè devono dare anche un po' una mano a fare qualcosa se vogliono che la frequenza continua, altrimenti alla fin fine cosa succede? Che tutti gli aspiranti radioamatori e quindi già radioamatori se ne passano qua a chiacchierare, tanto, qui già vai. Vabbè, non esagerare. Io passo lo stesso, cosa c'entra, non è quello il fatto. Io ci passo, mi fa anche piacere ogni tanto. È che qui c'è più limiti, io poco fa stavo collegando a Singapore, lo sai come la penso io, come faccio, non è che sto a 5,25 solo. Se tu guardi gli spot nel cluster, vieni e vedi in tutto il mondo. Poi 5,25 è come il canale 10, il casino c'era medi ed è meglio qua alla fine sotto quell'aspetto. Almeno qua non ti rompe le scatole da nessuno, là è un po' più... non si devono fare certi commenti, bisogna lasciar perdere. Come quello stronzo di ieri che stava traslando continuamente, no? Ti sembra giusto? Anche oggi mi pare ha fatto qualche... ha mandato in aria qualcosa e poi mi sono spostato, non voglio che mi venga a luce, era per uno stronzo. Ma anche lì quello già lo eliminiamo, non c'è problema. Io stamattina ho iniziato a muovermi e vedere un pochino se è possibile almeno monitorare qualcosa, perché veramente mi scrive. Ma anche l'altro giorno, forse tu non c'eri, non lo so, anche l'altro giorno sull'R7 c'era musica, mandavano dei spot pubblicitari, ho sentito anche qualche rutto, cioè non si può continuare ad andare avanti così. Radioamatore, la necessità di essere lasciato in santa pace per fare le sue attività, tu non ci puoi entrare, non ci devi entrare, non ti vedi presenti con i disturbi, non puoi disturbare, non puoi entrare, se non ci devi parlare qua, punto e basta. E quello è che l'educazione sta di casa dappertutto quando ci vuole, uno è maleducato anche fuori dopo, no? È dappertutto. L'educazione non è tanto, perché ci sono radioamatori imbecilli e radioamatori più corretti, e cibi bravi in gamba che meritano molto di più e di quelli proprio che non servono a niente, non valgono neanche uno sputo. Che ne so. Questi atti di... queste stronzaggini mi fanno solo male alla radio, dunque non esiste. Io ero a casa di Antonio, ero con lui, stavamo preparando un ponte di grezze per l'amplificatore, l'abbiamo fatto, l'ha fatto. E basta, stavamo ascoltando e ho guardato il segnale, era attenuato fondo scala, dunque 9,50 del TS2000 di Antonio, perché era da lui, dunque è lì intorno a lui. Sì, noi eravamo a fondo scala, però riuscivo ad attenuarlo con 2,71, mentre dalle parti di Sorcerer invece non era a fondo scala a pieno, capito? Ci sono discorsi a fare, sicuramente era lì dalle parti, era lì dalle parti di Antonio, perciò stiamo molto attento, perché un riferimento io l'ho dato a chi lo vede, quindi stiamo molto attento che non le faccia una sorpresina mentre c'è la portante calcata, perché in VHF, in UHF è molto facile pizzicarti, non è come la KF o come la 27. Quindi pubblicano subito qui, sia attento, faccia quello che vuole, ma è poco mi interessa, l'importante è che non faccia stronzate a far sentire così quello che diciamo qua, che poi si la mia voce in 2 metri, facendo vedere, sentire quello che si fa qua, tutto lì. Ok, vai, perdiamo Walter, vai. Ogni tanto entra, già entra, facci sentire. Ehi, va così, la gente purtroppo deve imparare a avere un po' di educazione. Deve imparare soprattutto a avere un po' di educazione. Ma già lo becco, vedrai che lui prima o poi lo castagno e si prende quello che gli danno. Perché poi lui che va a fare un po' stupido con certe cose, capito Walter? Chi si può pigliare una peggiore e volere un corpo, una mano e all'altra, non trattarli più. Allora, no, bisogna, una lezione bisogna dargliela, e non è corretto, si fa, perché purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta, è così. Scusate che mi hanno fatto uno scudo, adesso non ti apprendo, no, ci sentiamo, ho fatto piacere ascoltarti, dai, fatti sentire ogni tanto, io lo sai, a me in specifica mi fa piacere che ci sia anche tu. Non sempre, perché so che i tuoi impegni sono tanti, ma ogni tanto vieni qua a dare un colpetto con il dire che ci fa piacere. Ciao Falchetto, ciao anche a Massimiliano Bullotto, dai, un abbraccio a tutti, ci sentiamo più tardi, a te Walter. Sì, e beh, io ogni tanto già entro, ogni tanto mi fa piacere, dai, come la penso. Ne ho da provare baracchini, ma l'altro giorno ne ho comprato uno a Cagliari, l'ho comprato, come si chiama, il Lorenzial Bip, come non me lo ricordo più. Parte da 26 a 30, vabbè, non lo ricordo. Ci vediamo, ciao a tutti, che Cascianello, vai Massimiliano. Eviano, dai, non ho voluto fare solo questo intervento e basta. Buona serata, buona continuazione, dai, Massimiliano vi saluta. Ciao Massimiliano, arrivi 9.40, è fortissimo, 9.42, 45, picchi positivi qui ai punti. Stazione diabolica. È positivo, dai, io sono quello che abita un po' prima di te. Ah, giù a San Giovanni. Eia. Da una parte o dall'altra già ti sento bene lo stesso, non cambia niente, le distanze sono più o meno uguali. Giù ho abbassato un po' il sistema per il vento, fare un po' di manutenzione. Speriamo che non ne vengano quelle bufere. Ah, si credeva peggio, e ho visto che è sceso tutto. Come che era peggio, invece mi sa che si poteva tranquillamente lasciare tutto sopra. Lo so, però siccome parlavano di questa cosa, poi avevo una bobina che pensavo che era storta, pensavo era una cornacchia e si mettono sopra l'antenna, invece si è incendiata stranamente con quell'amplificatore. La devo ordinare, la stiamo ordinando dalla Germania, la rimetto su dopo, così metterò un altro sistema di slooper per gli 80 metri diverso, tanto per fare qualche prova. Non vedo l'ora di scendermi via ad abitare, è la cosa migliore. Sì, registrato, sì, qua già si sta bene, diciamo, là. Già è una zona abbastanza tranquilla. Ok, avanti il break. Buonasera, fa bravo. Un controllo, per favore, sto provando una telina. Ciao Walter. Ciao Gianfranco, la radio fa sempre schifo, 9.20. Ma dove sei? Agli punti. 9.20 è esagerato, è un antennino del cavolo. Questo è uno smitter che è un etero, l'FT 9002X, 9.60 il fondo scala, è 9.20 comunque. Sì, un attimo che se ne sta andando la batteria, che sono batterie. Perché? Ok, va bene, dai. Io vi saluto con la buonasera, buona continuazione di QSO, dai. Avanti il break, io vi saluto. Massimiliano Bulldozer e Corretti. Buona serata. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, arrivi forte qua, anche la modulazione è buona. Che baracchino hai? Ciao Walter. Antonio, ciao. Vai, va. Hanno parlato in 3. Era un 48, ma deve avere un amplificato, deve essere molto bene. Positivo, dai, è un 48 con un MB più 5 modificato, diciamo, va. 50 watt. Esce benissimo. Ce l'ho anch'io con l'MB più 5, imballato, mai usato. Anche c'ho un MB più 9, l'avevo comprato, non l'ho mai tolto. Allora toglielo che si prova. E lo faremo un giorno, tutti quei baracchini che c'ho. Avanti il break. Ok, buonasera a Massimiliano di Sacquiretto. Ciao Walter, buonasera a Chiara Gianfranco, vai Walter. Ciao Gio Maria, buonasera, anche a te, un telefono un attimo. Ben sentito, anche tu arrivi bene, 9.35, ben sentito. E dopo tanto ci risentiamo, mi stavo spazzolando, ti ho sentito, pesce bene un po', se mi riconosce, mi ha riconosciuto subito, fa piacere già, riprende, vai. Gli anni passano, uno va a tendere al rinco, più avanti va, ma le modulazioni almeno quelle più storiche si riconoscono in genere. Io ho dovuto camuffare un po' la voce prima con Claudio e con Massimiliano di... per non farmi riconoscere, ma stavo faticando. Ciao Gio Maria, ben sentito. C'è un altro break, avanti. Riprendi il falchetto. Aia, ciao Gio Maria, ben entrato, non ascoltato. C'è un po' di propagazione. Ciao Franco, non è entrato. Ciao Franco, c'è un portatino, come si chiama? Fate che sono la campanella. Va? È spostato, si Antonio. Deve essere spostato. Beato, tutto bene? Un attimo, mi stanno suonando la porta. Chiamare, se ne prendo subito. Ehi, ehi, ehi. Chi ci è rimasto? Stasera, Gio Maria. Ehi, buonasera, ben risentito. A te. Stasera vi sta ascoltando tutti quanti, eh. A uno ogni tanto. Mi avevi fatto sentire, fa piacere veramente da fra. Ok, sicuramente che senti male, Gio Maria, perché senti alternata a go-go, perché sto tentando di caricare la batteria, perché sono in portatile. Buonasera comunque, ben ascoltato. Ok, fa piacere veramente. Ma battere, è andato se ne. No, è al telefono, come al solito. Quando ci attacca, oh yeah. Ti muove già fra. Sto provando una antennina piccola caricata multibanda. Mi senti con molta alternata, Gio Maria, vero? No, lasciala portato un attimino. Sì, si sente, però non disturba, Magari io non la sento solo se magari non parli, capito? Ma se no non si sente, non disturba assolutamente. Sperando che non brucio per cavalleria. Ok, il segnale è forte? A 9.40, sì. Addirittura. È un antennino autocostruito, piccolo piccolo. Dai, sì, sotto casa si conta, per forza, sì, 9.40, sì. Va bene, va bene. Aspettate che c'è quel rumorino di alternata. Ma cosa c'è? Mi carica la batteria, no? Sì, ho una parata batteria e quindi sto tentando di caricarlo, tutto lì, è per quello che sento l'alternata. Ecco, per quello, Bene, bene, bene, chi altro c'era? Massimiliano mi sembra che sia con Claudio. Siamo rimasti soli. La paura, io dal telefono, scusate. Adesso me ne devo anche andare. Gio Maria, questo piacere sentirti, spero di sentirti fra 30-40 anni. Dopo tanto ci risentiamo, dopo tanto. Comunque fa sempre piacere, va. E già lo sai, fa sempre piacere ascoltare i vecchi amici, vai. Si ritorna indietro di 30-40 anni, tanto è nulla. La passione era diversa prima, stavamo parlando, mi ricordo con chi, con Antonio, mi pare che con Antonio e Bio, che conosce Gianfranco e gli altri. Quando avevo il traliccio con la Monracker, con la Cubica, che avevo un po' di stazionari, la sera piovendo, la notte anche con la pila, salivo, mi arrampicavo a 20 metri come un mancante. Adesso non salgo a mezzo metro, se c'è stazionare se la può pigliare anche dove dico io. A proposito, ma ripiazzata la vivi il traliccio oppure no? Sì, subito, certo. Perché sono parecchio oscillante, sono senza vederlo da quando siamo usciti con la Bonanni di Mario. Giuro, non mi ricordo, ma eri entrato dentro pure. E siamo usciti io e Mario per vedere quelle 4.40, 4.40, ti ricordi? Mario è morto, no? Mario, poverino, se n'è andato. E tutta la roba ce l'ho io, tutta la roba sua. E almeno qualcuno ce l'ha. È così, così. La pizza purtroppo è così. si va sempre avanti. Già fra. Sì, un attimino, io ho dei problemi, forse mi si sta staccando l'antenna perché di quelle attaccate a scotch. Ci sentiamo più tardi magari, adesso la incollo. Ciao Walter, ciao Dice Maria, ben ascoltati. Buon proseguimento. Problema rete, vai, c'ho problemi di là. Avanti, Falche. Accetto, è al telefono. Cappa, come mi stai ascoltando, Giovanni? Sì, 9:35. Tu sei, prova. Sì, ok, 1, 2, 3, ciao Franco, poc'anzi, 9:40 arrivavo, un antenino, dice, mi sono abbastrato, e poi diciamo, se sono poc'anzi, per forza arriva così tanto, tu arrivi abbastanza bene, la radio è bella pulita. Adesso ha aumentato il segnale? Sì, adesso sì, 9:41, una cosa del genere. Tu sei 9:40 fisso. Va bene, va bene. Va benissimo. Ma ogni tanto bisogna cacciarli a farli scaldare, sennò. Ma io pure ho entrato poco, magari, non è che va tanto più ormai. Non so, non c'è più nessuno, qualcuno qualche volta così magari è. Non c'è più nessuno, capito? E ormai mi sembra che stia morendo questa CB. E dove maturi peggio, lo sai che cos'è? Che non bisogna lasciarsi prendere lo sconforto, non c'è nessuno, perché a punti gli piace stare con l'orecchio teso e ascoltare i cavoli degli altri, che poi dicono fesserie, non fanno attività radio, non fanno niente, non è positivo, né da parte dei maturi né dei cibi né nessuno. Dunque, per prima cosa bisogna fare attività, parlare, entrare, sentirsi, non litigare, cercare di prendere la radio come mezzo per socializzare, per parlare, per creare qualcosa su questo dubbio ovviamente, no? Cercare di divertirsi facendo caccia alla volpe, cosa ne so, attivazioni, collegamenti, piazzare antenne, fare attività radio. Parla, se invece uno si dice non c'è nessuno, c'è quello, c'è l'altro, poi entra quello e inizia a parlare male, l'altro a bisticciare, tu sei stronzo, inizia a sfasciarsi le cose. Invece se uno parla e si crea anche un team dove ci si va d'accordo, ogni tanto una seminata, sono quelle cose che riempiono la vita, che è fatta di piccole cose, possono essere positive. Ed eliminare le mele marce, quelli che rompono le balle. Bisogna entrare, se uno si fossilizza così non entra, perché casomai non sente più a Mario Mao, non sente a quello, era abituato a un altro, allora andrà sempre peggio. Invece entra, viene da provare, e piazza tutto in macchina se ne hai, ogni tanto vai, fai giri, come facciamo tutti. Io cerco di resistere nonostante i debiti, le rotture di scatole di questo periodo, che è impossibile andare avanti, e lo vedo, ti toglie anche la voglia di fare radio, perché quando non c'è l'umore deve pensare a mangiare soprattutto. Insomma è un ubi, dai. Buonasera dalla città di Ferro. Ok. Buonasera Sandro, ben entrato. Insieme a Walter. Mi piace perché io sono inutile, sono appassionato, accanito, io ascolto molto, va. Ascolto molto, per cui però quando comincio a sentire certe frasi, frequenze, non mi va, io sono stato sempre abbastanza educato e non penso che mi abbia sentito mai certe parolacce, ma quando sento certe frasi mi frequenza, fanno veramente pietà, allora magari uno si disgusta, ecco, per cui magari gira canale, magari va a un altro canale, non c'è nessuno e allora spegne uno e ce ne va, capito? Forse anche per quello, però già ce ne sono ancora qualcuno che è perfetto, per cui fa piacere entrare e chiacchierare più o meno. Bene, riprendi, vai, vai, c'è anche il Porto Torres. Avanti Sandro, mi pare, avanti. E capo. Buonasera, buonasera Gio Maria, mi hanno ascoltato, salutoni, ok, buonasera anche a Walter, buonasera, Sandro qui da Porto Torres, avanti Walter. C'è un po' di propagazione, sento sotto delle stazioni, ciao Sandro, ben sentito per la prima volta. Walter Diabolichi da Sassari, ho esattamente lì punti, arrivi bene, 9:20 in questo smitter che è abbastanza ampio, uno Iaesu. Come mi ascolti? ascolto con un segnale di 9 con un leggero picco positivo al 9.5, una radio normale, una radio chiara, limpida, diciamo, tutto quanto. Va bene, Walter, sì, anche da parte mia mi sembra qualche altra volta, però raramente, tutto lì, sì, ogni tanto già ti incrocio a Sassari, già ti incrocio, dai. E può darsi, io CB non è che ne conosca molti, a parte i vecchi, Gio Maria, Gufo e via dicendo, e Claudio, tanti altri. Quelli nuovi, diciamo, non li ho presi. Intanto vedo qualche antenna, basta, non posso riconoscere, non li conosco tutti. Quanti watt stai uscendo? Scusa Gio Maria. Non ti ho capito, Walter. Quanti watt stai andando? Diciamo che sto usando un 48, ho abbinato diciamo un amplificato alla base. Ha un microfono per io sono 80-100 watt, però l'Alan 48 come smitter è piccolino, non si riescono a vedere i segnali. Più o meno, diciamo che 48 media lo conoscerai benissimo anche prima di me, diciamo che raccoglie tutto, diciamo che un piccolo bidoncino da battaglia, quindi i segnali diciamo sono più o meno relativi, diciamo tutto lì. Va bene, ok, dai, lo riprendi e puoi far girare Cesio Maria. Beh, Silvestro, vedi, ciao, ben sentito. Avanti, Gio Maria. Ok, ne approfitto, è venuta gente, devo attendere, per cui chiudo. Walter, mi ha fatto veramente piacere, ti ho sentito, è sempre in gamma, per cui è un piacere sempre ascoltarti. Ciao Sandro, mi hai risentito, buon proseguimento di serata a tutti e due, e fai entrare il break, vai Sandro. È ok, dai. Se non sbaglio mi sembra che sia stato Gian Paolo, il nostro capo silvestro di Papatango. Ok, ciao Giovanni, ben ascoltato, ce la riascoltiamo tutte le prossimine. Silvestro, avanti. Ok, beh, sono Giovanni, sta chiudendo. Giovanni, ci sente a fare alle prossimine. Ciao! Ciao Silvestro, è proprio oggi non parlare di Juve, porca mia, questo è morto quel ragazzino col Pescara. Sandro, come ti arriva Gio Maria di segnale? Uguale al mio, più basso o più alto? Ma diciamo che di differenza c'è quasi di un dB e mezzo, o Gio Maria arriva più basso di te. Gio Maria, cosa stiamo con 4.30, 4.40, cosa hai? Sì, 6.80. Però a me arrivi bene, 9.42. Forse, vabbè, io sono più vicino a Sandro, sono un certo watt. Guarda così a stacco lineare, se così cambia un po' il segnale. Sì, ma la radio è bruttissima, aumenta il segnale, ma è bruttissima. Ok, va, dai, chiudo. Che c'è gente. Grazie ancora del QSO, sperando di risentirvi ancora. Ciao Giappà, ben risentito. Buon proseguimento. Vai Walter. Ciao Gio Maria, le prossime. Da te Sandro, cambia il segnale. Ogni tanto sto amplificato a fare pizza. Sì, si è aumentato, diciamo che se conosci, se Zappa lo conosci, lo smitter del Midland, sei sul 9, arriva sul 9, poi c'è il più e poi il 30, diciamo che sei sul 9 e più, diciamo che sia intorno ai 9:10. La radio diciamo che è un po' compressa. È così, è normale, abbasso un po' l'ingresso, va bene. Da te, Giampa. Guarda, se vedo ultimamente a conseguenza, io chiamo Giorgio Sandro e tu lo stesso, io non dico bugie. Io mi sento perfettamente. Chiaro, mi sento perfetto, tutto va bene. Però tu se non ti metti l'antenna sul tetto, arrivi in basso. Sandro, in che zona sei di Porto Torres? Ancora. C'ho un piccolo di rientro. Rientro di RF. Chi è? Riesco a capire perché. Forse ho troppa amplificazione. Walter, sono circa in linea d'aria, circa 500 metri da Giampaolo. Verso satellite o verso giù via Sassa? Satellite. È una bella zona, 9:26. Serra Lippuzzi, quando c'era lì, non lì era una zona mostruosa. Se mettono una stazione lì, e ce n'è un paio di CB, se metti una stazione lì ben messa, una bella antenna, arriva dappertutto. Mi sento adesso, Walter. Ho acceso il capo, vabbè, qua è un gas, mi sento adesso. Sì, c'è stato un break, ma ti sento uguale, 9:10 arrivi. E prima fai un altro tempo. 9:05, 9. Aspetta, chi è il break? Avanti. Buonasera a mio pubblico. Se ne ha ascoltato la tua nome del tempo, ma mi piace qualche cosa. Sì, però alza la radio. Baffetto Luigi Vulcano, se no sei sino una radio bassissima. No, è apposta così, infatti il supermercato, se no entro dentro tutto lo stai, lo fastidio nel supermercato, dai, ce l'ho tutto il meeting, tutto chiuso e la radio è tutta chiusa, capisci? C'è problemi con questi giocattoli, avete boh. Va bene. A me che mi senti sicuramente bene, siamo due passi. Sì, io penso benissimo, guarda, lo fanno anche Sandro e Giampaolo, da questo senso. Oggi ho già sentito e allora sono entrato a salutarti, che sto facendo una cosetta qua in cucina. Però mi sento che sto preparando una cosa che mi hanno regalato e allora sto stando attento e non si bruci, capito? Sei attento, sono stasera un cenio, eh. Avanti, Sandro. Ok. Ok, ciao, Gigi, ben ascoltato. Ok, lo so, Walter, purtroppo a noi ci frega, diciamo, della nostra posizione, almeno la mia con la posizione di Giappone ci frega perché noi siamo nella volata, ci abbiamo la piccolo monticello lì nella zona di La Cantoniera, quindi Serra di Pozzi già è più alto, quindi per Sassa diciamo è abbastanza aperto, tutto lì, però insomma in grosso modo riusciamo a comunicare con Sassari, diciamo bene, diciamo tutto lì, almeno da parte mia. Giappone forse perché io adesso al momento sto utilizzando un altro la turbo, se stato la conosci, Giappone sta usando una lingua, quindi magari ci sarà anche differenza di quello, perché se no, diciamo, in linea d'aria siamo abbastanza vicino. Sì, la conosco, io sto usando la Mantova 1, è uguale, la turbo non cambia niente, ha un radiale in più, con tutte quelle fesserie che scrivono per avere influenza su chi le compra. Comunque, è una bella antenna sicuramente, io ce n'ho una, mi pare, 40 anni. No, 40 no, allora da là. Ehi, siamo lì, 77, un sacco di anni, alla sorte. È una bella cosa. Va bene, sono te ne vanno bene. Poi queste nuove ne ho comprato una e l'ho messa da poco. E ho visto che è diversa anche come è fatta, un po' più fragile dell'altro, un po' più fragile. Queste antenne ne ho piazzato dappertutto, RAS Plus. Devo scaricare un software adesso. Allora avanti Gigino, mi fa entrare a Silvestro. Diciamo adesso che qui c'è la pure X, insomma, sta facendo cosa. Va bene, anch'io sono molto sentito, sono entrato sul capo di mio stato, perché ero in opera, quindi un po' di parole crociate. Ascolta, ma mi sto dicendo un po' tuo, magari è molto, che non ho compreso. Porto un giocatore Serie A, in Serie B, con Pescara, non lo sai, hanno sospeso tutte le partite. No, non sapevo io, veramente era proprio del sonno, in senso, cioè. Morosini è morto, Morosini, del Pescara, campo, un infarto. Poi vabbè, così è. No, ultimamente il giorno, poi ci ho controllato questa persona, e beh, non c'è niente da fare, no. Non è scritto di te che quando la cosa anda e lo basta. Devo, sai, capito? Devo perché mi vediamo. E non mi viene il giovane stesso, perché non mi vediamo. Dopo. Ok. Purtroppo già fa. Purtroppo, cosa dire? Sono i casi della vita, dottore. Ok, dai. Io vi lascio che devo farmi altre cosettino. Ok, Walter, ce la risentiamo tutte alle prossime, dai, ti saluto qui da Porto Torres, ciao Giampa, alle prossime. E ciao, alle prossime, è così, Porto Torres, anche la reattore non c'è neanche uno che fa attività da là, è morto e gli altri sono morti lo stesso. Ma Gabriele è morto da poco. Gabriele? Non è Mischi, sì. Via. Ma non era grande, è quasi 80 anni. No. Quando arrivi poi... piano. Non so cosa mi vuoi dire, ho capito già. Ciao Sandro, comunque ci sentiamo, stai bene, alla prossima idea. Ok, dai, grazie. Vabbè, bisogna pensare sempre alla vita, non alla morte. Anche quella, vabbè, ci ripensate, però, senza stare lì a pensare, che così non manca di gare. Io non avevo tanto, ci proprio il burai di un pensato. Lo pensi, quando vai avanti con gli anni lo pensi, e più vai avanti con gli anni meglio è, ma meno tempo, meno futuro, meno tutto. Vabbè, comunque è la vita, è inutile stare a girarci tanto intorno, e questo è. Sì, la vita sì, vabbè, mi ricordiamo la giovenia, giustamente, questo sì, è vero. Però naturalmente non per starci tanto, perché siamo lo stesso, è una malattia più male dell'altro. Vabbè Walter, io continuo adesso un attimo un'altra cosa, perché magari ci sentiamo di ciò alle prossime, ok? Ciao va! Vai tranquillo, ci sentiamo, a tutti e quello che ti permetto. Ciao ciao! Buonasera Walter! Sto chiudendo, chi è? Buonasera! Buonasera, Leoncino, sono a questa parte, ciao Walter! Ciao Leoncino, ben sito anche a te. C'è Gigi Vulcano che sta cucinando un porcetto e nessun altro, però io me ne sto andando. E per là, sto bene, sì. E non è il periodo di dire sì. Diciamo che problemi che abbiamo tutti. Io una cosa vado, no, un'informazione, così, giusto a titolo informazione. Ma tu abiti dietro via Montefurto, è possibile? Sì, abito anche là. E io lo stesso abito in quel palazzo. cosa c'è, l'antenna? Io ho messo le antenne lì, però non c'entro quasi mai perché cosa, non ci sono antenne che mi entusiasmano, gli spazi sono ristretti. Ma chi sono quelle antenne, chi sono? Allora, tu mi quella di volte, ho cacciato all'anima delle antenne, ne hai quattro cacciate lì. Sì, sono due per le VLV1002, una Mantova 1 e una multibanda per le HF che non serve a niente. Cazzo, va bene, era giusto per... forse può darsi che ci conosceremo anche di qui, ci conosceremo. Può darsi, io adesso non sono lì, sono nell'altra casa, sono lì punti. Sono in macchina, Eva, non sono a casa, sono in macchina. Che zona sei? Monteforro. E anche tu arrivi forte, vabbè, qui sono in una zona alta, c'ho le antenne, la radio. E loro si sente, mi sta arrivando 9.30, radio 5 qua. E tu sei 9.10, ma io sto andando con 500 watt adesso. E io sto andando con 5 watt, c'è la riparetta va. E lo so. Da qua già tiro, posso salire anche un po', un bel po', dunque vado basso. Va bene, dai. Ti faccio andare alle tue cose, sbrigarti le tue commissioni, ci sentiamo, ora avremo modo di conoscerci anche verticale, dai, non ci sono problemi. Appunto, c'è il problema. Vas plus, non devo fare niente, devo fare qualche collegamento in radio, oggi una giornata è venuta. Con questo utilizzando le radio che sono sempre ferme. Bene? Vulcano. Vulcano deve essere lì davanti allo spiedo. Va bene. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Buona serata, buon tutto, dai. Ci risentiamo tutte le prossime. Chi è che ha chiamato? Buonasera a voi per salutarti, un saluto di cuore, Gianni Capri2 che ti muovo dal QTH di Muros su 27.075, avanti Valtteri. Anche a te Gianni, ben sentito dopo tanto, collezionista che hai. Sei nello stesso QTH di Giancarlo, va bene. Ok, ma con le solite tu non me lo devi dire che io sono un moscerino conforme a te, hai capito? Qualche apparecchio ce l'ho dell'epoca, hai capito? Sono molto appassionato, ma non come te, Walter. Comunque, sempre con tanto di complimenti per le tue collezioni, avevo avuto modo di vedere qualcosa su internet. Guarda, sono contento che ce ne siano, chi più ne ha più ne metta, Walter. Sì, lì ne ho messo un po', già ce ne sono. Ne ho anche tripli e quadrupli. Poi ci troviamo al limite, se c'hai qualcosa doppio da scambiare, no, tanto non te ne fai niente come me, di averla tre volte. Lo vediamo. Perché no? Stavo dicendo, guarda, non è che per caso c'hai qualche SBA Capri 2 per caso, no? Capri 2, SBE, Baracchini, boh, ne avrò 7-8, Console, non me li ricordo, ce ne ho, non me li ricordo i nomi, però ne ho. Io sto cercando un Capri 2 a 5 canali, quello diciamo che gli ho messo il nome attivo perché mi era andato male durante un trasloco quando abbiamo fatto una casa nuova, traslocavo e mi era andato male, il mio primo baracchino va. Già ho capito qual è. Era quello senza lo smitter, mi pare che aveva due luci, riceve e trasmette, non me lo ricordo, non credo di averlo. Preciso Catalina era, preciso Catalina. Ecco il Catalinaccio. E in buone condizioni. Sì, sono apparecchi di quell'epoca. Ok, a Catalina anche mi interessava per loro. Vediamo un po' un giorno se facciamo qualche scambio là. Tutto possibile, perché no? E il Catalina è simile, il Capri 2 mi pare aveva due luci, una blu, una rossa, riceve e trasmette e basta, non aveva nient'altro, il microfono col pulsantino rosso, il volume e basta, è squelcio. Si assomigliava al Catalina sul trasmitter, invece di avere diciamo la comportazione come il Catalina ci aveva i dati tipo quelli degli autoradio, ti ricordi? Il Catalina secondo. Il Capri, il Catalina secondo era preciso all'altro, solo che c'era differenza che uno era a relè e l'altro era a commutazione elettronica. Non ce l'ha presente. Catalina, se me lo ricordo, lo usava Mariner 7, ti ricordi? Sì che me lo ricordo, sì che me lo ricordo. C'è un, come si chiama, lo devo cercare soffitta, da bambo, un quaderno con tutti i BCB che ho collegato all'epoca. Io faccio quest'anno 40 anni ci sono in frequenza là. Ci sei da molto anche tu, da molto. Io sono dal 68 che ho i primi collegamenti e qualche QSL anche. Io quelle robe lì sono andate male perché poi aveva pulito, mamma ci aveva buttato tutto, aveva fatto punizione, ci aveva buttato le altre bottate, qualche volta c'è da essere ancora. Però l'unica cosa che ho salvato sono il CQ elettronica e dal 72 parecchi, tutti gli anni 70, 80, quelli ce li ho quasi tutti. E io li ho dati perché QSL qualcuno ce l'ho ancora, anche mia madre me ne ha già buttato due. Lì è però così. E sono cose, cioè quello che ho potuto salvare l'ho salvato, adesso sto usando qua, non so come ti sto arrivando, sto in questo momento sto usando un Inuit CB294 a 23 canali. Ma no, già arrivi bene, radio 5, 9 e 20. Ok, questo è perché me l'aveva venduto, lo sai chi? Gianni Capricorno. C'ho un Tocca 50-24, poi c'ho qualche SBA di quelli da base, che erano fondi di magazzino, li avevo comprati in America, tempo addietro, e c'erano proprio nuovi mai usati. Ok. No, io ho anche il Tokai, ho 50-24, ho il Pace 123, Pace a 6 canali, poi a 6 canali, poi 23 canali. Io ho tutti quelli che hai nominato. Ok, ne avevo uno a 12 che aveva fatto la buonanima di 91, quello lì, anche quello sparito, e quello c'ha trovato i quarti fondamentale, sparito, perché poi io mi ero rotto nei carabinieri quando ero là. Qualche cosa lì è andata a finire, l'ho comprato pure in Inuit a 23 canali e l'ho anche lasciato lì, hai capito, perché la passione era tantissima, guarda. Beh, a chi lo dici? Così non fa comprare più niente, questa crisi, se non siamo tutti preoccupati. Niente, io lavoro, guarda, ti dico, il mio lavoro io con la scuola bus, c'è un appalto di questo paese e dell'altro, capito, perché sono consultati assieme, però pagano un sacco di tasse, guarda, non se ne cavano pieni, è che me li gestisco io, me lo gestisco io con la scuola bus, l'altro ce l'ho di riserva, e però guarda, di altro non c'è niente, speriamo che continui a starci, altrimenti mi devo fare anche a qualche provocia su tutte le patenti, non ho problemi, ma so fare tutto, ma però c'è una crisi che sta portando la gente all'esasperazione, sono introdotto anche l'ICI per la prima casa e capito, da tutti forse vogliono attingere il governo. Molti hanno ballato quando si è andato Berlusconi, adesso faranno il ballo al contrario per farlo tornare. Infatti, perché può entrare questo, perché tutte le cose a posto, sì, però non ha parlato niente per rilanciare l'economia, ecco, lo faccio, ci sediamo una settimana e mandiamo a volte il mercato del lavoro, niente, guarda, troppi altri stiamo andando a finire male, è così, sì. Mi la sera me ne vengo qui, faccio due chiacchiere con Claudio e con gli altri. Visto, ti volevo ricordare, qua, se ti ricordi a Panzer, te lo ricordi? Pier Giorgio è morto, quello di Cagliari, che poi è andato a Cagliari, Pier Giorgio Farina. Pier Pinna, è morto. No, per ricordare queste cose, se io, quando mi siedo con le vecchierarie, mi ricordo tutte queste cose, quando voi via Galileo Galilei, al laboratorio, ci passavo un giorno a sentiere, dei bellissimi ricordi, Walter. Era un bravo tecnico anche. Una volta avevo visto, era andato a Parigi, e poi era già messo male. Eh sì, Sinceramente l'hanno molto perché era morto, perché lui mi voleva incontrare e quando ho fatto il carabinieri a Cagliari, però l'avevo in certi settori che non potevo avvicinare, ci avevo i baracchini, infatti io ci moduravo lì da Iglesias, però non potevo avvicinare, era il peso, tanto per un periodo, e hai capito, non potevo avvicinarlo, e hai capito, gli ho detto non mi posso spostare, ho detto da qui. Vabbè. Bene, Ras Plus. Non riesco a trovare questo diavolo di software, una cosa allucinante, con 1000 trabocchetti. Prima di scaricarlo ti fa impazzire. Infatti io ho un computer proprio c'è perché lo usano i miei figli, lui hai capito, c'è l'altro dove abita già tutto, io qualche volta che mi carico la chiavetta, me la carico per collegarmi a siti di apparati, hai capito? Tutto lì, non perdo la testa, lì non gliela perdo, e in Facebook io sono proprio, non entro da nessuna parte, non mi faccio riconoscere da nessuna parte sul computer. Oh, neanche io ci sono per questo, assolutamente. Perché ti allontanano dalla radio e basta. Non ho niente a chattare niente, anzi, o se sono stato sempre una persona riservata di dare certe confidenze, qui sì in radio, bene o male, però cioè, non arrivo oltre un certo, hai capito, perché ci hanno insegnato quando ero nell'arma, capito, ma proprio una preparazione. No, non mi piace a chattare, a dire stronzate, a fare, capito, amicizie, come c'erano gente a fare amicizie femminili che le faccio anche se non cerco il computer, capito, con altri sistemi, no, non mi interessa assolutamente qua, perché diciamo è un mondo proprio sporco, è Facebook. Lo so. Quello ci interessa meno adesso, le nostre idee ce le abbiamo di cose. Va bene, ti sentire ogni tanto. Vabbè che dovrei farmi sentire io che tu su non puoi venire in maniera allenatoriale. Fai l'esame. Ok, guarda, se mi metto ci riesco, però guarda, ti conto per quelle cose che ci ho in testa, no, sto sempre leggendo, non parli di, come si chiama, c'è buone, diciamo, nozioni di radiotecnica, sto sempre facendo, però la testa è piena anche di altre cose, sì, c'è anche una campagna da seguire che grandi mettano lì vicino a Mores, tra l'altro sto prendendo il portale, lo ripeto, lì ritagli di tempo, poi seguo mio figlio che è fisarmonicista, si dice alla stagione, lui sono lì, sono cittista e hai capito, montare il servizio, tutte queste cose, ma tante cose non si possono fare, però volentieri, no, sono SQL, ho tutte le apparecchiature che immaginabili, però diciamo sempre che sulla 27 non mi sono mai permesso mai di andare nei 45 litri, né di scavalcare oltre, diciamo, sono proprio perfetto. Però un giorno chissà che non mi salti l'idea, perché la è una cosa bellissima, a me fa piacere, però tutto non si può avere, Walter. E vabbè, prova a fare l'esame come qualche altro, e va se non ci rivai. Qui in Sardegna sembra stai facendo l'esame per diventare un professore dell'ospedale per fare l'operazione al cuore. Noi. Sì, ok. No, Giancarlo mi ha fatto anche come si chiama i quiz, tutto quanto, non lo sto sempre leggendo, hai capito, no? Non è che sono preparato anche bene, come si chiama, di radiotecnica, solo che il tempo è quello che va, non posso. Però un giorno che mi dicevo Giancarlo come il sole mi ha pregato, la volta che c'era l'esame, e ho detto, sto facendo il corso a Cagliari, ho 6 mesi viaggiando, il corso di autotrasporto passeggeri, un esame come un diploma quello lì, e quindi ci avevo il periodo quella roba lì in testa, altro, se no scoppia qualche giorno la testa, però è una cosa bella che si può sempre fare, Walter, guarda, se trovo diciamo uno spiraglio di tempo volentieri sarà fatto e così mi affaccerò anche su quelle frequenze. Non dire a me perché io non ho fatto l'esame per i condottieri, lo stesso. Sono impazziti tutti ormai. Infatti quella roba lì non solo di quello nazionale e internazionale, però per trasporto passeggeri qua. Una cosa, guarda, di cosa tributaria, di un sacco di cose, e un sacco di libri, tutti. Poi se io non ce la faccio non lavoro. E quindi mi sono messo, lo stavo dicendo fuori di testa, fuori di testa facevo questa roba e come finivo alle due. Con lo scuola poi mettevo in moto la macchina, due volte la settimana scendevo a Cagliari e ne rientravo alle 9 del mattino perché il corso iniziava alle 8 di sera, finiva alle 11, 11 e un quarto e poi a rientrare l'ho fatto da mese di dicembre e poi figurare fino a maggio l'ho fatto. E lo so io, è un grosso sacrificio perché a Sassari non ce n'era che facevo questo corso. Sì, già c'era, lo faceva la confartigianato, mi pare, e poi uno che poi non era abilitato e ha fregato come anche a me, io l'ho fatto da privato poi. Adesso non basta quello, devo fare l'internazionale, non riesco comunque, ci sono un sacco di problemi, non sei mai in regola, non ce la fai più ormai, questo casino del gasolio, ora vogliono aumentare altri 5 centesimi la benzina e il gasolio, stanno impazzendo. Sì, io ho, come si chiama, c'ho l'appalto, mi devo mettere il gasolio e tutte queste palle varie, ero un piccolo imprenditore e a un regime, adesso da lì perché c'ero 4 anni iscritto così, poi 4 anni sono dovuto entrare anche come si chiama, sono entrato di nuovo a un regime dell'IVA al 10%, ma no, quel corso non c'era qui. Qua. Bisognava essere per dare l'esame diplomati e infatti i diplomati che non hanno fatto il corso li hanno bocciati. No, questo per passeggeri non c'era perché l'ho fatto nel 2008, non so se c'è adesso, l'ho fatto nel 2008 l'esame. E per forza sono dovuto andare a Cagliari a fare il corso, a farsi meglio a fare il corso, perché altrimenti non potevo, e mi è costato allora 2.500 euro questa storia. E 1.500 invece, è quello che ho fatto io, che non è servito a niente perché non era stata riconosciuta la ISP, poi l'ho fatto da solo dopo e basta. Messo contratto l'anno scorso, mio figlio ci ha fatto le patenti, quello che sono la fisarmonica, ci ha fatto dei camion, tiri, turma, cappa, CQC, tutto quanto, gli ho comprato il pugno a 9 posti, il nuovo di Pacalo per il faro, per fare il noleggio, il comune, siamo già dall'anno scorso battagliando per avere la licenza, ci voleva l'iscrizione al ruolo, adesso mi sembra per il mese fatto l'esame a Camera di Commercio per il ruolo dei conducenti di questa roba e ancora in alto mare, la gente viene a casa da quando iniziate, quando iniziamo se non mi dà la licenza il comune non si fa niente. Cambia discorso, lo so, è un disastro, non dire a me, tutte che poi uno abbia le patenti se non c'è il lavoro, il casino è lì, capito, vabbè, ne usciremo. Infatti, ma no, se no, sempre molte volte, ma con l'altro di giornale, cambiate canale, ho detto, perché poi sto sempre con la testa, sembra un ventilatore il cervello girando, eh? Poi molte volte ho detto, non fatemi risentire, perché ogni tanto non ne farò qualche cosa di come si chiama, sempre a metterti la mano in tasca. Io le tasse le pago, però quando è troppo, l'accordo, ho detto, quando la tirano troppo, e non riesci più perché alla fine o paghi le tasse o mangi. Sì, infatti se era stata una cosa, ecco, che ecco, guadagnavo un posto, non è buono, però è sempre proprio con la cosa al collo, con la cosa al collo, e va bene, si può dire che andiamo la poca che deve venire, ho detto se non mi conviene non le prendo più, aumenterete il budget, però perché se no io quei prezzi non ci lavoro più, perché anche io devo vivere, devo mangiare e devo tirare avanti la famiglia. Bene, va, ti saluto perché sarà pronto quasi, è pronta quasi la cena e mi ha fatto piacere, io già ci sono quasi ogni sera, mi affaccio e facciamo il QSO, capito, con vari CP e se ti affaccio a me fa grande piacere. Per il momento ti saluto e ti auguro tutte le più belle cose del mondo. Passo il PRT, poi nel caso che c'è qualche questione prenderò dopo cena, se ne abbiamo voglia. Ti rimetto il cambio. Ti cambio il tutto, ci sentiamo. Speriamo che migliorino le cose, perché veramente qua non è più un periodo, sta diventando un'epoca. Siamo stanchi, vedrai che il vulcano scoppia dopo. È proprio così, la gente poi si ribella, vedrai che si ribella, perché anche per mandare a curare, per forza, perché uno si vede e vedo con la pentola in tela, per forza si buttano. Speriamo che non si arrivi a tanto. Di nuovo Walter, buonasera e a presto di sentirci. Ciao ciao. Mila buona rimane il Walter, ciao. Ciao Lessi, va bene, ci sentiamo. Molto bello! Ehi, ciao Cap2, saluto di ben sentito. Sì, ma sto andando a cena perché ho sentito il rumore delle posate, capito? Perché poi già mi piace, ci sentiamo più tardi magari a me. Per il momento devo chiudere, non lo lascio acceso perché fa troppo bordello. Yeah, ciao Gianni, che ti ha fischiato. Ciao, ci sentiamo alle prossime, vedi, Cap2, stiamo bene, saluto anche a Walter, dopo tanto, lavora ogni tanto. Bene, Gianni, sei chiamato a dire a Walter, e ti sei spaventato poco per questo ciclone che non manco c'è stato. Ma ormai non ho abbassato nulla io. Se ne abbassi, c'è un antennino, cosa vuoi abbassare? Ciao, doppio room. Ciao Walter, ben sentito, va? E dove te la trovi? Sono lì punti in questo momento. La magava. E allora, cosa mi racconti? Nulla, là. Sono un periodo di tutti un po' spallato. E vabbè, Walter, e va. Vado subito. Stiamo andando peggiorando sempre, ma cosa vuoi fare? Questa gente qua, le eliminiamo oppure... Oppure continuiamo a essere così? Non fa più, amico mio, non fa più. No, ho sbagliato, fanculo, aspetta, scusa un attimo. Un'ora, cercando una cosa, se l'ho trovata e stavo... Eccolo qua. È un disastro, caro Gianni. Non è che dico cosa ci vuoi fare, cos'è questo modo di rassegnarsi ai soprusi e a questa pressione mostruosa? E non è che a fare una guerra civile per buttarli fuori, perché così non si può fare, ma gli italiani sono troppo bravi e sopportano tutto, capito? Invece gli olandesi si sono rifiutati di pagare l'IMU. E non è l'IMU solo il problema è il gasolio che costa troppo. Chi fa trasporti adeguamenti non ne prende, si è destinato a morire. Ma un po' in tutti i campi, tasse, questo, quell'altro, tutto, tutto insieme ti porta ad andare sottoterra e così c'è poco da fare. E cosa stai facendo lì? Riordinando stai? No, sto scaricando il programma del PC, sto usando un po' la stazione perché ci vengo meno e basta. Sono entrato, sono un'ora che sto andando a fare collegamenti in HF che vedo gli spot, ma ho entrato Cap2, Gigino Vulcano, Silvestro, Claudio, Sandro, insomma un po' tutti. E via dicendo, salutando, Figaro, sono un paio d'ore, credo. Vabbè, sono andati via tutti. Ogni volta adesso sei rimasto tu, me ne sto andando dentro un altro. Perché ti dispiace? No, assolutamente non sei rientrato. Poi se devo chiudere già chiudo. Vabbè. Invece sono venuto, mi è partita la radio. Ieri stavo urlando, tranquillo. Sono andato a prendere i bambini a scuola, l'ho riaccesa e non c'era più QRM, no? Non funziona più, ho controllato le scuole, ci riferisco durante, niente da fare. Vuoi portare al dottore? Che radio è? Saturn. Qual è? Quello grande, il Galaxy. K. E io ce l'ho sempre. Non lo uso, ma ce l'ho. Dove sei a casa? No, sono in giro, Walter, sono in giro a macchina. Arrivi bene, 9 più 20. K. Sto scendo con l'altrino che ho autocostruito io, eh. Se non vedi ti metti a ridere. 70 centimetri. 9,30. Cosa ridere? Lo sai, piano piano impari a fare anche queste cose. E l'assilio perché non va bene con l'antenna? Sì, l'assilio, però non l'ho mai avuto, sinceramente. Io ho la REM, la Turbo 2001, ma è troppo grande, capito? Quella la uso d'estate, quello che sono riesci da fare, la verità. Però questa qua va bene, mi sento da tutte le parti, anche il protettore, se addirittura la forzatura sono arrivata a Bologna. E poi dipende dalla propagazione, dalla giornata. Quindi ce n'è un po', se guardano in alto, 27, com'è? 565, quelle frequenze lì c'è sicuramente qualcosa, anche perché nella banda nostra sopra i 10 metri c'è qualcosa. Mi rendo conto quando c'è propagazione a 27, perché c'è più traffico ovviamente, no? dei 10 metri, e allora quando c'è propagazione me ne vado su a fare qualche collegamento, ma io ho quasi tutti confermati quei country che ci sono in questo periodo, me ne mancano non tanti. Cioè non tanto, già me ne manca, ma non li riesco a trovare facilmente, ecco. Alice, va. È andato in bagno, Alice. Ah, ci fa la birrozza. Già lo so, già lo so. Ma la detto in sovrammodulazione, un attimo, non so cosa fare, dovesse fare. Riascolti a me. Vabbè, tranquillo. Tac, ancora ce l'hai. Sì, sì, ce ne ho due di quelli. Quello non mi dà qualcosa, ma non è riuscito. Tre ne avevo. Cioè, quello con la manopola scorta l'hai dato, quello lì. Ah, coso, Daniele, è sparito quello lì. Oh, già che ogni tanto già entra. Cioè, che ogni tanto salutare, c'è anche l'apparecchiatura ancora tipo qua. Ogni tanto entra. E quello lì sta lavorando al vero, quindi... poco tempo c'ha almeno. E l'ho visto con le ambulanze da fa. Sì, sì, è entrato in una cooperativa di ambulanze, dove è stipendiato normalmente. È già un punto. Ragazzi. Beh certo, ma il tempo non è che sia tanto quello che ha, quindi è entrato in tanto a salutare e basta. A te che lo sentivo già da un po' di tempo, per meglio dire, già ti sentivo ma non ti potevo parlare. E quello dipende da te, io te l'ho detto mille volte. No, Walter, guarda, lascia fare, non so i tempi di comprare, di fare, perché mi vengono lo stipendio a fare tutte queste spese, riprendere antenne, fare, no, non me la sento, dico la verità. Ma mi va bene benissimo, 27, che fai un bel questionario, va bene lo stesso. Come dice il proverbio, chi si accontenta gode, rimane così, va bene. E non devi comprare niente, devi fare l'esame, cosa devi comprare? Sì, perché poi le apparecchiature, antenne, sto con la roba, non le devi comprare. Ehi, come hai comprato la 27, ne compravi l'altra, e poi... le radio le trovi anche a buon prezzo, alcune radio, no? Usi la sai con la Mantova 1, lo dì la Vittorio, sta facendo collegamenti in 20, 40 con l'accordatore, non è il massimo, però si fa. Sì, è vero. No, non so che vanno, ma io sono la 5, sono la Mantova 5 io. Sono uguali, c'è un radio in più, una cazzata. Chi è che vuole entrare? Mi sono rientrato parte. Comunque anche la NG5A mi risuona molto bene in altre frequenze. Il rapporto delle radialisti originali, Walter, ci ho messo quelle radio qui e vado tranquillamente in 45 metri, che è un demonio. Figurati, anche il WhatsApp lavora. Sì, sì, anche la Mantova, che è ancora meglio, ti dico. E beh, bevuto tra la birretta. Sì, sono qua qui. Sto bevendo la birretta, poi devo scendere giù, sto facendo il bando a mia madre perché non si regge in piedi, quindi devo fargli la cena e roba del genere, ormai abito sopra di mamma, in pratica. Qui sei, su in alto, via Carlo Felice. Sì, sì, sono lì ormai, non lo capitavo in via San Donato, non te ne dico nulla, non mi devo vivere, chissà grazie. abito quassù e quindi devo fare la scuola da quassù, scendere giù, dargli da mangiare, la cosa è caduta, no? Poi non potrei neanche filare sola perché non si ricordano le cose. Ormai c'è l'Alzheimer, quindi la memoria, cioè i momenti che è lucida, i momenti invece che vuole chiudere fare appresso. Io se lo prendo per la porta se ne esce. Quanti anni ha? 84. E arrivare in salute con l'età già va bene. Quello sì, la verità è quello sì. E poi i figli dovremmo aiutarle le madri, no? Anche mia madre sta male, però ogni tanto vado a trovarla, anche se a casa poi c'è mio fratello che l'assiste e altri, però bisogna sempre stargli vicino ai genitori, perché è vero che una madre fa grandi 10 figli e 10 figli non aiutano la madre. Sì, quello che è vero, ci sono i figli che si sbattono le balle, invece io scendo giù da presto, la compagna a fare all'ospedale per dire, come lei, quando stava bene veniva a trovarmi, quando ricoverato mi portava la roba, veniva in trama, figurati. Adesso in trama non puoi più filare, se non sbaglia, mi stava le cesce. E quindi la cosa è così, purtroppo, non ci può arrivare a quell'età, è un casino, Non ci pensiamo noi, o iaia. È breve la vita, non ci vuole niente arrivare a 80 anni, a 90, 100, sono troppo brevi, troppo poco, però il sistema è quello, vita è quella, non è il sistema, è così. Avanti Gianni. Mio padre Walter aveva 6 anni, è morto, ed era sempre lucido, usciva da solo, indipendente, si faceva tutto da solo, si lavava da solo. Solo che ogni tanto riusciamo a portare a terra quando si faceva il bagno, per dire, non aiutava a lavare le spalle, così, però poi per il resto era tutto indipendente, si faceva tutto da solo, si prendeva il traso, andava in giro, si trovava gli amici suoi, chiacchierava, poi si metteva a parlare di pranzo, tranquillamente, non era indipendente, ripeto, per tutto. Se me lo ricordo, ho conosciuto a tuo padre, era abbastanza attivo. E 96 anni è arrivato in salute lui anche. Sì, grazie a Dio, sì. L'unico problema che c'è stato è che ha avuto questa tosse, l'abbiamo portato e aveva questo liquido nei polmoni. E non gliel'hanno voluto togliere, da lì ha cominciato a degradare, eccetera, eccetera. E poi un giorno ci ha detto, tutti bene state? E io gli ho detto, sì, perché? Tu bene stai? Sì che sto bene. E domani è stato in coma. Sembra come fosse, se lo sentisse qualcosa. Sì, se lo sentiva certo. Poi è stato 12 giorni in coma che l'ho detto che non sapeva, pensavo che morisse da un giorno all'altro, e invece ha una fibra, quest'uomo dice che molti giovani non ha. Così, 96 anni, una firma in salute. Io spero di sentirti a quell'età, così parlando alla radio. Mi auguro di sentirti anch'io. E come ti stavo dicendo, la mamma la stessa morta, la stessa età, lo sai? No, ti ho detto così perché sono più grande di te, dunque se sento a te che ne hai 96 io ne avrò di più. E mia nonna no, è morta a 98, l'altra a 94, mio nonno... Uno è morto giovane perché fumava, 70 rotti anni, mio bisnonno poi che ho conosciuto a 101 o 6 mesi, mia trisnonna a 103 e via dicendo. Cappagatta, quindi sei di fibra buona. E vabbè, Walter, non è che abbiamo tanti anni di differenza, se tu ne hai 55 e ne ho 52. E appunto, siamo lì. La famiglia, se dovessi prendere... Le doti genetiche della mia famiglia va benissimo, non è sempre così. Comunque, tanto è arrivare sani poi. Poi, tutti gli altri commenti sono superflui. Beh, auguriamoci di salutarsi la radio, c'è tanto. Ti senti i russi sotto? Papà, io mi sento. Propagazione, Uge. Silenzi, non ti disperare, io l'ho avuto 14 anni mio padre, e l'ho fatto col cuore a tenerlo a casa. Io ho avuto due zie in casa, se ti ricordi bene, e una si aveva per servizio, anzi tutti e due la verità, e una si aveva fino a 93 anni pigliava e si faceva il giro di Sassari, tranquilla a piedi. E poi a un certo punto incominciava a dormire di giorno e di giorno ti sveglio e ti faceva il cucco, si metteva allora se ne dormivi la notte, hai capito? Sia una sola c'è l'altra, che siamo tutti e due qui, o se ti incadere mamma, aiutati. Poi è toccato a mio padre e adesso c'è mia madre in queste condizioni. Speriamo che non si butti giù, oramai c'è la tale ciao. Meglio che campi assai, almeno con la pensione qualcuno va avanti. Sì, mi faccio sai la pensione sua, già sto lavorando, già sto bene io. Sì, no, ma lui ti serve, aiuta, se non c'è la pensione di tua madre anche tu la devi aiutare. No, sta bene mamma con la pensione che c'è, grazie a Dio, c'è mio fratello e ci pensa anche lui, ma più che altro siamo io e lui che è la mia ragazza qua, ci diamo giù, da una mano, poi c'è un cane qua, si mette a sporcare in casa, la casa di mamma, più che altro. Giulia, l'unico problema è Mundica. Il vecchio, anzi l'anziano adesso con la pensione, se non trova gli attaccano le corna a Monti. Per carità, non me lo nominare. L'ho detto prima, quando hanno mandato via Berlusconi hanno ballato. Immaginavo io questa cosa, non lo immaginavo. Vabbè. Sì, mi sarà con la peggio, questo conto in mano le banche adesso, non hai capito? Comando un lavoro, hai capito? Quindi le cose sono così. Adesso fino al 2013, poi nel 2013 vediamo chi ci capita in mano. Noi faremo partiti, se vediamo che ci capita in mano si mangiano in subito i bussi e c'è buonanotte. Beh, bussi mi sono mangiato qualche cosa al filo dai soldi della Lega, non è che erano i soldi che gli danno, sai che ogni cittadino avente diritto al voto dà una percentuale, pare un euro a partito, i voti. Capito, non che voti, al preto che prende i punti, chi ha 1.000 voti prenderà 1.000 euro, chi ne ha 10 milioni 10 mila euro, 100.000, quello che è. Funziona così in Italia, e le aziende che muoiono di fame, la gente che sta muoiono di fame non gliene frega niente, però politicamente è così. Ecco, è vero. Allora, Antonio. Buonasera a tutti, se non mi sbaglio Walter e anche a chi c'è in questo canale. Buonasera a tutti, Antonio Bombo da questa parte. Ciao Antonio, ben sentito per quante volte qua, ben sentito. Ma l'hai sentito un'altra volta, ma l'hai sentito non sbaglio. Ma c'è fortissimo qua, c'è a fondo scala, non so da dove stai modulando. Sono i punti. Se 9 più 30 qua, fondo scala proprio. Buonasera Pomponio. Ciao Antonio, buonasera, saluto. Ti volevo chiedere Walter, FT101 c'hai in ero con frequenza metro rosso, in pratica digitale. 120 stazionalizzato, dopo la valvole. FT101ZD. Tu penso che sia quello. Lo usava tanto tempo fa e Sandro Battellite mi è sempre piaciuto quell'apparecchio, c'ha lo spinotto per microfono a 4, era 4 puri. Sì, è una grande radio e poi hanno fatto la versione dopo il 902DM, il 901ZD rimane sempre un'icona, una bella radio. Qua si buscano i quilli così me lo compro. Si trova, vai su Rifidenza, lo trovi, si trova, io il mio lo tengo perché è nuovo e non è solo quello, me lo tengo e basta. Quanto costa più o meno? Non te lo ricordi? Non ha un grosso valore, capito, ecco perché a me non mi interessa bene, penso che vada da me di 300, 500, 600 euro, non di più, dipende dalle condizioni. Certo, anche io ho un tratto di cavale. Quindi se 80, va. Se 80 è un baracchino, non vale niente. Se 80 ha valutato 200, 280, si è a posto. Non ho capito. Vabbè, stasera vedo un po'. Però ci vuole i soldi. Me lo prendo, così inizio totalmente in pensione momentaneamente, anche perché quando ti arrivo a casa con i 13 15.000 non te lo dico una, me lo sento. È triste lì. Io dirò a me, quando fa vento specialmente mi. Da un paio di volte sono scappata quest'anno, l'ho fatto a temporale, siccome hanno messo le. Al salotto mi hanno messo il parafulmine e mi passano di solito il fulmine adesso. Non più lungo, figliata. Ma la china questa acqua la mette a volte. No, cosa? Aspetta, sto installando un programma e... Che fai? Che peghetti. E dove sei già? Sono esattamente a quella. Per poco sei forte, in direttiva ti sento 9:20, tundu tundu. Io sono forte, ma come perché sono accolato? Sì, vabbè, proprio sei forte. Cioè, esci bene, non è che ci va. Con questo antenino è di lusso. Meglio così, sono contento. Io mi devo contentare della B27L, cioè della... E abbiamo di sette, facciamo sempre io. Nella rete scottabile, quella delle campagne, già mi dà soddisfazioni, va in tutti i posti, grazie a Dio, ed è perfetta. Tipo è zero, scarto la è zero, dopo la lunga prese malattie, va a fare un culo antena di gas. Va bene, una volta che mi dice l'isolante, è a posto. Se non sento io, ho comprato già pezzata, invece me l'ha proprio smontata a me, ho detto che da pezzarmela io. Evidentemente la condizione, come ti ho detto, si è dilattata, eccetera, eccetera. E quindi mi ho buttito un paio di metri di cotte. Appagappa. E vabbè, comunque, quella lì adesso dura. E quelle che non durano sono le altre, quelle senza radiali, l'energia. No, guarda che l'energia senza radiali la puoi modificare. Io un ex l'altra volta ho sentito un laringo, cioè questo sta pesando 254 laringo modificato. Io ci sono due radiali lunghi, quindi più di quelli della radiali non sono radiali lunghi, perché di solito i radiali della energia 5 ottavi, cioè quello che ho io, sono lunghi 1,20 m, non di più. Ma i radiali laterali che cosa possono cambiare? La ricezione, no? La trasmissione? L'angolo di radiazione ti cambiano, l'esattezza. E più in parecchie frequenze di suona, hai capito? Io con la 5, cioè normalmente quando la compri hai dei problemi, perché vai in 40 metri e in 45 no, per dire. Come lo metti radiali della radiazione? In 45 si è salvato la ricezione di cosa mala, quindi ricordati sempre una cosa, quando una tela va bene che risuona, te ne accorgi subito dalla ricezione. Se prima il QRM non la vedi, che adesso c'è il QRM, ricevi i segnali 9, 9, 20, quindi anche la vedi, sta risuonando. Come armonica, capito? Comunque, eccetera, eccetera, quindi sei tranquillo, a me fa quello. Io ho fatto quella modifica e già avevo fatto il direzzetto, una cosa del genere. E parlavo con tutti. L'unico problema è che ho fatto una specie di attaccante di V2001, quella volta lì l'avevo sciolta. E avevo comprato una tantenna, l'avevo comprato. Poi sono venuto a abitare qui, ci ho messo la vantola con la 1, con la 5, con la turbo. La turbo... tutto va bene, esiste il problema all'intervento di fare la modifica sotto, prendere con la piastrina dove ci sono i radiali e cambiare, mettere l'acciaio. Ma prima la prendo l'acciaio, mi fai la stessa forma, il buco, e vedrai che i radiali non si toccano più, si marciscono. Allora, va bene, allora. Walter, installato qua il programma RAS Plus, quello per le telecamere. Lo stavo configurando, sennò veniva male se parlavo, perché mi ricordavo alcuni passaggi. E quindi ce l'hai tutti fermi gli apparecchi, non li stai attaccando almeno la corrente? No, ogni tanto, lo attacco più quelli in HF, gli altri no. Il Constat, quelle linee. L'altro giorno, quando ero, la settimana scorsa, ho comprato un Constat 25B, cos'era? È un, posso fare 180 baracchino, maledizione, come si chiama quello che c'ha con copertura, con il President? Il Jackson? No, non è Jackson, un President, quello che c'ha BIP, c'ha tutto il recattato. Il Jackson, dico, c'ha il BIP, anche per vendermi. La R7 BIP non ne ha, è un 40 canali solo. C'è Jackson, Bodellevi, eccetera, eccetera, sono tutti come c'è BP 412, c'è che c'è la mascherina nera, oppure un'altra mascherina di colore argentato, diciamo. Lincoln. Non ci va bene per quel pezzo di 180 euro. Quanto vale quella macchina? Poi ce lo fanno pagare, non sai quanto un presidente, intorno a 500 euro se lo fanno adesso venire. Porta un sacco di soldi per trovare gli apparecchi. Sono una vettura montante fissata per il finale, perché volta il 2176 e l'MRS 477 e costa 50 euro solo il finale. Come baracchino com'è? È buono, è buono. Però visto, cioè ciò. Poi di quei Jackson ne ho 4-5. Ne ho avuto anch'io, ne ho avuto due, quello vero e quello argentato di Jackson. E sono buoni. Ovviamente la danno più da 30 watt addirittura, perché montano quel tipo di finale. La portata del 1969 montano l'MRS 477 e ti dà 40 watt tondi tondi, lui già 30 ed è perfetto. Sì, sì, io non lo uso, però ti dico che penso che sia una radio, va bene. Va bene, ho preso un 836 che in macchina va bene, o un Midland, basta andare a casa, è meglio le abitazioni, gli adesivi con la linea della macchina, non ti recupi. Dipende che Midland c'hai, questo io non mi prende di colpi perché c'ha delle modifiche che i colpi non te ne fanno prendere, dipende da quello che mi. Io i colpi li pigliano anche gli apparati grandi HF, li pigliano tutti, cosa modifica Gianni? Beh, non li prendo. Fede, ti volevo dire, di quei, ti ricordi il primo Lafayette, quello che mi hai dato tu, la base, 23, 40 canali? Boh, ne avrò 4 o 5 adesso. Esatto, quello lì, Tokai 5024, nuovo, di pacca, proprio, nuovo, me l'ho rifatto in scatola, quello lì. Sì, sì, quello ce l'ho imballato, fermo, non l'ho, lo accendo ogni tanto per caricarlo e basta, c'ho qualche LMS200. Un paio di quei Lafayette li venderei, veniamo 4-5 davvero, è un bel. Chiuso, vabbè, se lo spin chiuso stasera. Come ti arrivo? Com'è il mio segnale da Tellesi? C'è anche la Sapper. Sono Tellesi una talvolta a chiuso. Prova la coppia, c'è lì, c'è stato di racciato. Se mi prova un volta che ti dici quello che ti dico subito segnale. Com'è il mio segnale da Tellesi? Scusa, mi sembrava lasciare invece il muro. Lo sto andando. Vi saluto, riprendo dopo, io voglio raccontare un po' di roba. Entraci nel cortile interno, che è prima, c'è il cortile interno, poi c'è la partita che non finisce. Prova Walter. Come il mio segnale? All'alta, non è quando proprio fondo fondo, con una 50 anni e si ricorda con la direttiva, prova. Guarda così che adesso è aumentato un po'. Come 10 direttiva. Prova, aspetta la 50 anni, ti ha aumentato. 1, 2, 3. 40. 40 così con 1240, aspetta che abbassa. E così con la metà, 607. Sì, poca roba mi sente, non è che va di volta. E già lo so, infatti esco al minimo. Già non lo sono mia di più, mamma mia. Abbiamo tutti i verdi, mi tanto. Alessio. Ehi, dimmi. Ciao. Ma quel trappolo lì ce l'hai? Sì, è qui nella apparecchiatura. Ascolta, fa una cosa, perché mi hanno detto di fare un certo, dovrebbe essere un tastino e c'è... Come si chiama un soldato? Ma qui un attimo adesso, questo altro. Sandro. Sì, dottor. Se scordi lui. Sì, non si arrabbi, spaventi, vai. No, non so cosa diciamo, penso, io comunque diciamo troppo, da minacce, che sono deboli, sono un corso qua, e vediamo. Aspettando, allora, l'albergo sarà in Granci, a Lugero, ovviamente, a Lugero, sulla mia domestica, sono come un una volta che abbi quello, in pratica, ti fa scattare, ovviamente sento del grafico, rosa, che ti ho detto, che se avete questi, guarda, sono l'inestrofica, si che fa il grafico. E ho capito, già ho capito, per quello, ci dovrei di mettere, stiendo su un cuore di un antenne. Ma non abbiamo come, che se ne metto. Cambiando di questi componenti ritorna come prima, il problema non sono queste facce, sono copie che non mi usi e ci sono indicati, sono dubbi 5 di carbone e che ti ha fatto rientro, le altre 5 sono tutte sane, e come dal governo portare, quindi che non si può una volta, le spese di vino le spine rame, mentre si batte che c'ero, si che c'è scalcato. Sì, già ti ho capito, ti riferite a me, però adesso parlando diciamo con questo amico, diciamo questo amico di mio, che ha il suo, e mi ha detto l'esame di problema, diciamo, qui qua, se c'è diciamo dei cogliti di fumo, allora, soltanto il discorso mio era questo, diciamo, ok, perfetto. Stiamo a venire, ripeto ancora, sì che tutti questi componenti ritornano diciamo alla stabilità. Una volta che mi cambi quello, una cosa, in questo, sono che c'ha, adesso come adesso mi ha detto, dice che c'è, la colonnina e addirittura anche l'alimentatore, che viene per 100 euro, quindi a un certo punto ti potete vedere molto, quindi per questo punto è... in tutto per sistemato e c'è un 50 euro e quindi non c'è più, non c'è in più, c'hai tre pezzi in più, in pratica c'è l'aeroportore suo originale e compagni anche la comunità, perché lui ha comprato su internet e mi sono fatto anche l'altro letto e poi infatti cambiando di pezzi come riserva, quello che vuoi, magari lo vedete a posto, domani spendi qualcosa e lo vieni. Non è che sia un motto, un perenne, capito cosa ti voglio dire, o cosa. Per me, cioè, a posto mio, io l'avevo sistemato, così mi ha detto che se fosse stato per dire roba sua, adesso Adriano, dice che vabbè, se c'è 50 euro di cosa, cioè, infatti, tu, vabbè, lui è tecnico, quindi tu mi lavoro per la cosa del genere, però... E la spesa che c'è da fare con questi componenti e l'intercambio dei nuovi, ne vale la pena di sistemarlo. Tutto lì? Sì, vabbè, adesso vediamo un attimino, vai. Vediamo un attimino, magari giusto recuperare questi componenti. Vabbè, adesso vediamo un po'. Via Matera. Va bene. Gianni, dove sei arrivato? Vicino a casa mia, sta facendo la spesa a Carbonazzi. Io adesso chiudo e vi saluto. Ciao Lessi, bevi di meno, cioè bevi un po' di acqua che fa bene, ti fa dimagrire che sei grasso. Ciao a tutti, ciao Sandro. va. Dopo che mi ha magari. Cioè, parlo che vado, questo può dire ogni canzone. Quando si fa una fine per dire me ne bevo una ogni tanto, è più lusa e per tanto. Grazie a Dio non mi sono mai attaccato. E sto bene, io ho stato con i cugli, a questa mi ha preso in qualche piano, ma vado a rubare tutto. Che bella. Io non è tanto qua. Lo sai che ci fa piacere. Quando sono cambiato di qualcuno, da fuori, che facciamo careggiamo. Mi sono fatto una diretta varie mesi costruito. Piccola piccola. Orizzontale? Sì, ho messo che cosa vuole a 5 e sono messo tutti i tipi lo stesso. Poi sono praticamente da macalare, ho tolto tutti i primi elementi, li ho lasciato tutti. E poi ho messo da dei pezzi di campeggio, no? Poi ho fatto un registro di alcol, in modo che non si spezzino. Se metti che lasci i puntini normali, l'avevo già trovato in terra, però quindi ti devo fare. Miglioramento? Miglioramento? Parecchio. L'incezione, la volta non più colpire a nessuno, sempre a tutti. E in posizione parlo tranquillo. Mi sono esplicato perché parlo in... Quella verticale dicevo da quello orizzontale, per avere i problemi, io so che il 80 fino a colpi di tutto qua, nel senso delle, quando fa vento non si può usare, a quello che ci vorrebbe un tutto fatto a basso vento. Non mi un certo da dire. Non so che la metto, non c'è niente, prometto. Avessi. Ci devo pensare di faccio cosa mi ha detto la nuova di portare un certo ma si è fatta con poco pezzo. No, non ti sento, ma bassissimo anche con la direttiva, anche se uso la direttiva non risultale, evidentemente è un ferro da stiro quella che c'hai. Cosa volevo dire Claudio, quando ti arrivate Lisi? Una scala, 960. Ce l'hai lì vicino. Non lo so, adesso. Non mi sto preparando, oggi mi hanno mettato a cena. Se può fare molto traffico senza prendere macchina, al piano superiore. Così mi rilascio un po', se non cavo una poesia, no, non mi siete. Se non devo guardare il Milan, invece non gioca. Come mai? È morto Morosini dal Pescara sul campo. Che carta. Un ragazzino che hanno sospeso il campionato per oggi. Vabbè, dai, vi saluto tutti, alle prossime, e ci sentiamo. Ciao, guarda, ci sentiamo, non riesco a farlo, però dormi un quarto, vado a casa di questo mio amico sciopero. Ciao Antonè, ciao anche a Antonio Bombo, non mi sembra sentito, ciao a tutti, ci sentiamo domani, stessa ora, stesso canale, bye. Buonasera, Spartiero. Ciao, grazie. Saluto anche a Walter che ce ne sta andando. Ciao, ti saluto. Va, ce ne sentiamo alle prossime. A parte Pomponio. Ehi, ciao. Dimmi, c'è anche a parte, saluto. Dimmi. Ah, ma come? Ehi, fai molto. No, sai, grazie. Automatico non va in più trasmissione, hai capito, se ne scende di potenza. quindi va bene, va. La temperatura è troppa. Secondo, la temperatura non ti faccio i portati, ma devo cominciare qui. Quindi entrambi sono qui. E ha tutto fatto lì. Ah, ce la porta a casa. E perché più che altro ci va l'acqua, Sì, certo. E poi c'è tutto quanto lì, come ce l'hai visto? No, non ci ho fatto caso. Qua mi serviva, perché la stavo terminando, quindi non voglio stare con l'acqua a contatto, va bene. Bene, e fino alla al Bunchi mi sembra che è tutto quanto nero, c'è città Maggini, coso, tutto nero, allora. Aspetta che c'è la luce, tu sei qua così, sì, un lino. Capota, gli abbiamo si fa di 3 centimetri. Basta, era la tua via, era lì. Aspetta qua, lo dai venuto subito. Allora. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Ci mettiamo uscendo da qua, se no non è una buona tanda. Rientrati, oh, guarda, assurdi proprio, è claro. Bene, adesso ci stiamo preparando, andiamo a leggere la pizza stasera, se no sono che viene nuovo la tanda, magari 2 settimane che non esco. No, tocca ancora per un desiderio, ma ci soccorro, preparazione H. E infatti sto facendo un buco alla Siria, no forse l'abbiamo deciso, ma non ti va via, la lavoro, c'è una mia voglia, ci lasciamo, va via, se la mia voglia ci sentiamo quando rientro, se no alla prossima domani, dai, mi saluto, sto uscendo, ciao a tutti. Ciao, ciao, buon divertimento, sto qua. Ciao, ciao. Ma brava che sta, brava, ciao. La palla, la purilla, fare i bidet, quindi si ha potuto fare un lavoro, mi ha detto cosa parla a me, cosa vuoi che dica? Si è portato un altro, cioè, si è portato un tenere che ha rifiutato questo. So, troppo, troppo difficile, non ci ha avuto solo uno. Ho avuto anch'io una situazione difficile, so che cosa vuol dire. Lo so, ma a volte capita come destino, per dire, a volte quando eravamo piccoli ci voleva la nostra madre, per dire, adesso invece che loro sono anziani potranno fare noi a loro, figurati. Ciao. Quando era la piscina prima era un inverno, adesso purtroppo l'età sta avanzando e per di più ed è quello, sono malati di giovani, io i giovani che sono più malati di invece, io non nasciamo vantaggi, insomma. È brutto. Ma la clinica fatta la sua madre all'ospedale, per dire, che ne deve mandare qua, perché intanto l'ospedale non gli va di nulla, no? Gli portano a mangiare, non mangi, ma qualcuno gli dicono e allargati. Piccolo anche le fanno così, non gliene porta proprio di nessuno. Ormai c'hanno l'abitazione, c'hanno gli stipendi e fanno quello che vogliono. Prima che prendevano la cucina facevano tutto, tiravano la mano, le lavavano, facevano pazienza. Ha detto, niente, ormai quando ho parlato così, la relazione è questa, io non devo fare quella cosa lì, capito? Purtroppo è così, Ale, la cosa vuoi fare. Ok, un attimo in bianco a lei, che vi prendo dopo. Via, andrà bene, avanti Gianni. Allora, io ti lascio lì che devo fare roba, dai, ci sentiamo nel prossimo. Ci siamo la divisione dopo, si è arrivato sopra la tua, quindi. Ma buona, così trovo un po' il riposo adesso.